senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro Cruciani, sei il solito cazzone che non sai un emerito cazzo. Il giornale che ha detto quella cagata, infilatelo nel culo, coglione. Tu sei partito ad insultare il sud ed in particolare una città. Coglione. Noi sopportiamo, non siamo violenti, solo qualche minaccia qua e là. Cazzone. Ladri e imbroglioni, che sarai mai qualche truffetta per campare? Facciamo la pace, rendiamoci su, dai che non è niente. Dai Cruciani, dai, dai. Vieni a Napoli, vieni a Napoli, per te una sputazza sul babà. Vieni a Napoli, vieni a Napoli, neanche il tuo fetor ti salverà. Coglione, coglione. Non importa che tu sia frocio, finocchio, trans, lesbica, della maggioranza silenziosa, della minoranza rumorosa, comunista, fascista, squirtatrice. L'importante è che alle 18:30 siamo tutti lì ad ascoltare l'ultimo avamposto di libertà di questo paese di merda. Avanti Zanzara! Amici miei, eccoci qui anche stasera, caro ecco Davide, qua, ecco con la qua. Carica pazzesca di questo ascoltatore, e andiamo ecco. Avanti, e andiamo cosa avanti, vuoi, perché un paese di fare, merda, ha ragione l'ascoltatore, un paese in cui la signora Ilona Staller attacca Luigino Di Maio, l'onorevole Staller, il webmaster Di Maio, sì, l'onorevole Staller attacca, ecco. Sai perché? Perché signor Di Maio ha, criticata. Ha criticato tra i vitalizi quello della signora Staller, sì, le tue sì. Dichiarazioni è stupendo. Ilona Staller contro Luigi Di Maio, lo trovo meraviglioso. Le tue dichiarazioni riguardo me, sì, riguardo me, ti scrive, mettendomi sì. Sul blacklist è offensivo. Ma scrive proprio così, le tue dichiarazioni riguardo me, mettendomi sul blacklist è offensivo. Chiedimi scusa ufficialmente, se non sarò costretto a querelare. Tutti errori pazzeschi, eccetera. Di Maio contro Cicciolina sul vitalizio. Non ci sono solo ex politici o politici a prendere questo vitalizio, ma anche gente come Vittorio Sgarbi, 4.943 euro al mese di vitalizio, Ilona Staller, 2.231 euro al mese di vitalizio, Ombretta Colli, 3.460 euro al mese di vitalizio. Tra l'altro mi sa che Di Maio dovrebbe informarsi meglio, perché Sgarbi prende circa 9.000 di vitalizio, non 4.000. È il caso di titillarlo il professore. Mi hai sentito cosa ha detto Di Maio? Di Maio? Di Maio? Sarebbe il caso solo di fargli sentire, chiamarlo Di Maio, proprio chiamarlo ogni 10 minuti. Lui sì. Risponde, sei pronto Vittorio Sgarbi? E fagli sentire solo l'audio di quello, per sì, proprio sì. Torturarlo ogni minuto. Di Maio? Chiamarlo. Chi? No. Di Maio? Di Maio? Si carica, perché si carica da morire, immagino. È in ospedale già. Credo, è in ospedale che no. Si è operato a Cattolica. Chi? C'ha la spalla, si è messa a posto una spalla, oh, professorone. Sì, sì, sì. Poveretto. Ok ragazzi, di fondo poi c'ha pure ragione Di Maio, non è che c'ha torto, solo che farsi attaccare da Ilona Staller. Ho preso 20.000 voto, scrive la Staller, così è, ho preso 20.000 voto. 20.000 voto, 20.000 voto, è vero. Ero voto, seconda a Marco Pannella, per ben 5 anni ogni santo giorno andavo al Parlamento. È stupendo ragazzi, una letterina tipo, è che, no è ungherese, perché parla in modo diverso da Razzi no, o da altri amici ho che ho fatto conosciamo. 20 proposte di legge. Comunque. Tuttora depositata al Parlamento, depositata sì, sì. Le 20 proposte di legge al Parlamento italiano. Io prendo 2.000 10.000 euro nette di vitalizio. Il tuo stipendio parlamentare è sicuramente oltre 10.000 euro al mese. Però gliele canta la signora Staller, a Gigino il webmaster. Va bene ragazzi, andiamo a Napoli naturalmente, dove la gente è incazzata per quello che ha scritto The Sun, giornale certo che non ha una grandissima reputazione. Però ragazzi, ci dovete stare. Se vanno inserito insieme a queste città come tra le mie città più pericolose, stateci e non rompete tanti coglioni. Vox da Napoli, senti. Fatevi un giro a Parigi nella metropolitana dove mi hanno accrastato con un coltello. Fatevi un giro a San Francisco nelle zone dove non si può camminare la sera. Fatevi un giro a Londra. Napoli è come tutte le grandi città. Penso che sia una città tranquilla Napoli, rispetto alle altre metropoli. Logicamente sono quasi 2 milioni di abitanti. Può succedere qualcosa, ma noi c'è un pericolo di morte venendo da Napoli. La verità, in quest'ultimo periodo Napoli come turisti è piena, è zeppa, mai come in questo periodo. Scippi non se ne sento. Secondo me non è vero. Io sono fiero di essere napoletano. De Magistris, è gente, gli inglesi, che non ha mai vissuto l'emozione straordinaria di vivere a Napoli. Adesso ragazzi, va bene tutto, le semplificazioni, però come mai proprio Napoli è inserita Napoli, lì? Come mai? Cioè non c'è un'altra città, è cattiva stampa, è la reputazione che manca? Cioè non hanno inserito, ripeto ancora una volta, sì, Roma? Ma è una cialtroneria, amico mio, è la cialtroneria di un giornale popolare. Ma bisogna starci, dai, bisogna starci a queste cose. Però si può dai. Dire che è una cialtroneria, ma bisogna come starci, quando dai. Der Spiegel, è vero, Der Spiegel tedesco, in copertina, fece... gli spaghetti. Sì, quella copertina vergognosa, spaghetti con sopra la pistola. Beh, insomma, l'immagine dell'Italia è molto legata alla criminalità organizzata. Non, devo dirti la verità, non avevano tutti i torti i tedeschi. Non avevano tutti i torti. Ma adesso... credo che sia gente che non ha mai vissuto un'emozione straordinaria come vivere e passare dalla città di Napoli. Non sanno che si perdono e vanno avanti con affermazioni fuori dalla realtà. E... leggo su un quotidiano nazionale, la cosa riguarda la Campania, caro Parenzo. Adesso va bene tutto, ci sono molte regioni che danno finanziamenti a feste, a eventi, eccetera, eccetera. Sì, appunto. Per carità, tutte le regioni hanno una specie di lista, no? Ma certo. Di associazioni cui danno i soldi. Però, la festa dei cornuti. La festa dei cornuti a Ruviano, provincia di Caserta. Beh, ci sarà l'affollamento. La regione Campania contribuisce con 39.500 euro. Manco poco. Alla festa dei cornuti, un evento tra il sacro e il profano, in calendario a Ruviano, provincia di Caserta. Ti dico solo questo: da 40.000 euro, soldi nostri. Per la festa dei cornuti. Va bene tutto, per carità. Va bene, le regioni hanno i soldi che spendono poi per le attività sociali, le feste, le sagre. Però la festa dei cornuti a Ruviano. Non è male, ti dico male, solo non questo. È male. Ma secondo te gli islamici fanno sesso come gli italiani? Cioè le donne islamiche sono un po' represse da questo punto di vista, sai, oppure amico no? Mio, non sono contro le generalizzazioni, come sai, come chi dice quelle delle donne del sud sono più calde di quelle del nord, le francesi baciano meglio delle italiane. Puttanate. Sì, però luoghi è uscito, comuni, sì, è uscito un libro, comuni. È uscito un libro in inglese che è un manuale dedicato alla vita sessuale delle donne musulmane. Perché se la donna musulmana potrebbe arrivare, diciamo, all'incontro fatidico oppure al matrimonio, da questo punto di vista, un po' meno mata, un po' perché? Meno abile, come dire, per il tipo di cultura che ha ricevuto, per l'oppressione culturale contro la donna, per l'oppressione culturale che c'è. E intanto hanno messo in galera, hanno catturato quella modella che camminava per le strade di una città dell'Arabia Saudita, L'Islam, questo è l'Islam, no, caro padre. No, questa è l'Arabia Saudita, non l'Islam. Perché che cosa professano là? No, il cristianesimo? No, il buddismo? Che cosa professano? L'Islam. l'Arabia Saudita, allora, che non è l'Islam. È anche questo, l'Arabia è l'Islam. È l'Arabia Saudita, l'Islam hai detto molto bene, questo. È una teocrazia con cui tu fai affari, è la teocrazia con la quale tu riscaldi quel buco cesso di casa che hai, grazie a quel petrolio lì puoi far andare la tua odiosa, bruttissima macchinetta comprata usata 7 anni fa perché sei un pidocchio, puoi portare a cena la tua fidanzata perché con la tua macchina, il tuo maledetto motorino comprato 20 anni fa e che non cammina quasi ma più, puoi portare le tue amiche age di 65 anni con cui puoi fare l'amore perché hai anche il cattivo gusto, cioè grazie a quel petrolio saudita tu fai tutte queste attività orribili che caratterizzano la tua vita, ma non è l'Islam, non è l'Islam, l'Islam è anche le mille e una notte, ad esempio. Ma cosa c'entra? Certo, l'Islam è quel suono meraviglioso di quel muezzin che in Turchia chiama alla preghiera milioni di pacifici fedeli. L'Islam, ho capito, ma perché non dici chiaramente che è un governo di cialtroni, un governo di cialtroni? È una monarchia assoluta, teocrazia che fa gli affari con il ricco occidente. Sono dei figli di puttana, questa è la realtà. Sono dei figli di puttana. Allora, tu rinuncia al loro petrolio. Ma non mi interessa a me, no? Io rinuncio a tutto. Allora, non vuoi la guerra? Cioè, tu devi metterti d'accordo un po' tu, Trump e chi la e Salvini. Ti faccio ascoltare una cosa. Un esponente, credo, di sinistra italiana, non so più, io non mi ricordo più come sono i partiti adesso, perché mi sono rotti i coglioni. Vabbè, capito? Mi sono rotti i coglioni di queste divisioni enormi. Vedo sui giornali ogni tanto delle grafiche. L'altro giorno c'era una grafica con i partiti centristi. Sì, non so con tutte le palline, le cose, bravo, con tutte le divisioni. Andate a fare in culo. Ci avete rotto le scatole. La politica, d'accordo, lo capisco, è anche manovra, sangue e merda. Mi sono rotto le scatole. Questa palazzotto, a cosa appartiene? Che partito è? Sinistra italiana? Questo, anzi, è un deputato di sinistra italiana. Benissimo, contro la Santanchè sulla questione del fascismo ancora. Sentiamo. Noi, a furia di costruire questa propaganda e di minimizzare l'apologia del fascismo, siamo arrivati al punto in cui dilagano fenomeni di razzismo, di xenofobia, ormai quasi ovunque. Si comincia così, si finisce con mettere le persone nei campi di concentramento. La devo bloccare, come ha fatto il buon Duce, di cui l'onorevole Santanchè ha un esordio sul comandante. In pubblicità, ci vediamo dopo. Io non ho le figlie di Stalin dei titoli del TG. Santanchè. Cioè, la tesi di questo signore è che l'apologia del fascismo porta ai campi di concentramento. Allora, io credo che abbia bisogno di un ripassino, abbia bisogno di qualche lezioncina, perché è una cazzata, è semplicemente una minchiata, signor Palazzotto. Non c'è l'apologia, cioè non è che l'apologia del fascismo porta ai campi di concentramento, non c'entra assolutamente niente. Per fortuna non torneranno i campi di concentramento. E quel reato lì bisogna toglierlo. Bisogna toglierlo. No, su questo assolutamente non sono d'accordo. Togliere quel reato lì, perché altrimenti bisognerebbe mettere pure come reato l'apologia di comunismo. Molto semplice. No, ma non c'entra niente. Molto non c'entra semplice. Niente. Dimostri di fare una polemica senza conoscere la Costituzione. Santanchè dice: la Santanchè sostiene di avere sul comodino un busto di Mussolini. Ma ragazzi, ma sei contenta lei? Ma che devo dire? Mi hanno regalato una bellissima testa di del Duce in legno. Ma sai che testa dovevo regalarle invece? Ma pensate, ma cosa vuol dire la testa la tengo di Duce? Sul comodino. Testa di Duce è il nuovo insulto. Testa di Duce, esatto. Come bravo. Dire testa di cazzo. Hai detto bene. Non lo so, sì, testa di Duce. Sei una testa di Duce, tu. Bravo. Cioè, testa di Duce. Tu stai dicendo che testa di Duce significa testa di cazzo. Come minimo. Come la cosa più gentile che posso dire. Va bene, d'accordo. La cosa d'accordo, più gentile. Perché? No, no, va bene. Va bene. Adesso chiameranno all'899 non mi ricordo, 800 24 0024. Quindi, maledetto, ho insultato il Duce. Sì. Sì. Ho insultato il Duce. Sì, ma questo è evidente. Ma non c'è neanche da scandalizzarsi. Ho insultato un dittatore, perché qui ormai in questa trasmissione, ma ormai sono abituato, è tutto capovolto. Tu insulti un dittatore, ma Farenzo ha insultato il Duce, e uno per un minuto o per un giorno, io sono tornato a casa la sera, alle volte torno a casa col dubbio, dico cazzo, ma forse ho sbagliato io qualcosa. No, poi uno no, pensa il Duce a testa, sì, dice cazzo, forse io ho detto qualcosa a qualcuno di sbagliato. Uno ci pensa 5 minuti e gli viene il dubbio di aver sbagliato, e invece no, cazzo, il Duce ho insultato, certo l'ho insultato perché era una testa di cazzo, l'avete capito o no? E dice no, maledetto Farenzo. Come maledetto? È il dittatore. Ma che dite? Questo devo dire, alzo le mani su questo. Sì, è tutto, alzo, è tutto invertito qui, alzo, è tutto mani, spostato, è tutto, tu fai vedere di insultare tutto, il Duce, c'è il diritto. Ma no, insultare. Ma è tutto distorto, vedrai che adesso chiameranno delle persone non che non hai diritto che, di accogliere. Sì, ma sosterranno con argomenti apparentemente, anche con voemenza, con argomenti anche apparentemente logici, che ho torto io. No, avete torto voi, ma è perché questa è la trasmissione dove, come nell'Alice nel Paese delle Meraviglie, il mondo è capovolto, è questo. Senti, che voi non capite. Guarda, una cosa pazzesca. Ritengo che non è un problema, cioè noi ci stiamo occupando di un non problema, perché a me non impressiona. Io sul comodino di casa mia mi hanno regalato una bellissima testa del Duce in legno e tutto, ce l'ho. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No, adesso capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là, da Bergamo, sì! Da Bergamo, vai all'aeroporto. Il rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Nella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Niente non ce l'hai. Mamma, di un po' dove vai? Vado a sentire una conferenza di Sgarbi. Ma non lo sai che Sgarbi e Cruciani sono amici? Ah, quei due porci? Ah. David. Io non sono della maggioranza silenziosa, sono la fotocopia più piccola di Giuseppe Cruciani. Ti posso dire una cosa, menti, continua a mentire, menti, menti, menti, anche davanti all'evidenza, e la tua relazione amorosa rimarrà un segreto. La tromba amica ci vuole sempre. Bravo David, continua così. Eppure una napoletana. Questo è buono, eh? Questo è buono, questo è buono, questo continuano, è buono. Continuano a... Questa è una fabbrica di reati, l'ho già detto tante volte. Io... Si commettono più reati qui che a Scampia, lascia che te la dica tutta. Non ti mando in onda, non ti mando in onda per pietà, non ti mando in onda le tantissime segnalazioni che mi arrivano. Ma di che... tantissime segnalazioni su questa tua mio, ex ma segnalazioni amante, di che... viaggi ma tuoi qua... segreti qua... a Napoli, tante ma cose, no, tante cose segreti importanti. A Napoli, io non li mando qua... per carità di patria, non li mando in onda per carità di patria. E per una certa correttezza in fondo che mi rimane. Cioè, ma correttezza che ti rimane? Ma di che cosa? È tutto inventato, è un castello inventato. Non so se è inventato, la realtà una è che... cosa è incredibile. Ragazzi, comunque io capisco che la politica, ripeto, a me però il gioco dei senatori e dei deputati, quasi tutti di Alfano, devo dire la verità, che adesso vogliono tornare con Berlusconi. Di chi sono questi? E comunque di? Restano al governo, mi fanno... Ma non ho capito di cosa stai parlando, di? Di Alfano, signor Alfano. Mi fanno un po' stai schifo, non è che mi fa schifo Aspetta Alfano. Aspetta un attimo, di Alfano. Alfano, conosci Alfano? Quello che è il governo, non lo ministro so, degli... adesso è ministro degli esteri, degli esteri, Alfano. Esatto, ministro degli esteri. E oggi si è dimesso il ministro Costa, ministro Costa. Io sai, posso confessarti una cosa? Faccio, diciamo, mi occupo di politica da 15 anni. Credo di essere una persona abbastanza aggiornata. Sai che io di Costa chiedo scusa, ministro degli non affari regionali, ma l'esistenza, io, ma lo dico veramente con tutto il rispetto per la politica, non sapevo che esistesse. Quando a un certo punto, ma per mia ignoranza, quando a un certo punto si è dimesso Costa, dico come è successo? Costa chi? Tutti l'hanno chiamato alla redazione, torna! E ero lì a casa, stavo mangiando una cosetta prima di fare la diretta stasera della radio, cioè, si è dimesso Costa! Dico, intanto meno enfasi, che cazzo è successo? Torna, smontiamo tutto! Ma di cosa smontate? Non ho capito, cosa è successo si esattamente? È dimesso Costa. Si è dimesso Costa. Ma allora dai. Mi sono interrogato, ho detto, ma perché non so di Costa? E sono andato a vedere sui giornali, ho googolato Costa. Non ho neanche trovato delle interviste, delle dichiarazioni. Ma questo va a suo merito, perché di fronte a gente che dichiara su qualunque cosa, indubbiamente il suo silenzio forse dimostra anche il suo lavoro. Non lo so, adesso io però... Incredibile, ragazzi, incredibile. Comunque questi qua che vogliono tornare con Berlusconi, Berlusconi dovrebbe prenderli a calci nel culo, questi qua di Alfano. Invece di rimediare l'1-2%, in teoria dovrebbe pigliarli a calci... So che la politica poi è un'altra cosa, dovrebbe prenderli a calci nel culo. O intanto a Sesto San Giovanni probabilmente non faranno la moschea, eh? No moschea a Sesto San Giovanni. No moschea a Sesto San Giovanni. Davigo ieri sera in onda ha detto, tra le altre cose, che non è vero che i migranti delinquono più degli italiani. Ma è vero che gli immigrati commettono più reati degli italiani? No, questo non è vero neanche un po'. Anzi, gli immigrati regolari sono decisamente meno devianti degli italiani, perché sanno che rischiano il non rinnovo del permesso di soggiorno, quindi non è vero. Allora, Davigo ha semplicemente detto che i migranti regolari delinquono meno. Non si parla di questo, ovviamente. Si parla, a parte bisognerebbe fare le proporzioni, cioè dal numero di migranti al numero dei reati. E comunque Davigo può pure leggersi qualcosa del professor Ricolfi, che ha documentato bene come in proporzione i migranti delinquono, gli extracomunitari delinquono molto di più degli italiani. Molto di più, in proporzione, naturalmente. In proporzione. E Parenzo muto non parla davanti a queste cose. No, ma è evidente, io voglio dire, non solo sottoscrivo. Hai lasciato parlare Davigo. Beh, è evidente, intanto voglio dire, ha detto una cosa, ha fornito dei dati, ha parlato da tecnico della materia, quindi non è che ha parlato di robe, ha parlato di cose che sa, per quello fa il magistrato, quindi, e ha smontato un pessimo luogo comune che in tutti questi anni anche questa trasmissione ha contribuito purtroppo ad alimentare. Ma anche questa trasmissione, dai. Anche hai delle responsabilità enormi sul degrado del paese. Allora andiamo con Ciro da Salerno, apriamo come quelle che tu definisci le gatte. Buonasera Parenzo. Dimmi Ciro, dimmi. Poi io vorrei parlare di puttane. Parlo chiaro. Chiaro. Mi pare, sì. Di Dio, non è, io vi tengo simpatica a tutti e due, pure a Parenzo, non lo chiamo pezzo di merda che è bravo. Che gentile, un po' così a volte. Sì, Parenzo, ti vorrei fare una domanda. Sì. Mi dica, professore, grazie. Tutte e due. Sì. Sì. Mi dica, professore, grazie. Faccio l'operatore. Che fai? Allora, io l'operatore lavoro in ospedale. In ospedale. Io sì. 20 giorni fa ho preso lo stipendio e mi sono andato a mangiare un panino, vedendo che sono single da qualche mese. Sì. Mi sono preso un panino per tornarmene. Mi sono fermato da una prostituta, bello chiaro, tanto, mi scocciavo di andare su YouPorn, che dopo un poco diventa pesante. Certo. Io attacco lo Stato, prima cosa. No, ma non ho capito, aspetta, deve un po' parlare chiaramente. Mi hanno fermato i vigili improvvisi, due macchine dietro, mi hanno fermato, mi hanno fatto 500 euro di multa. Sì. Io tranquillamente la pago e ho detto al poliziotto, statemi a sentire, voi quando stasera smontate, avete la fidanzata, avete la moglie, avete un amante, io che ho YouPorn da due mesi a questa parte. Hai fatto la connessione internet intanto? Sì, cioè questo con chi trombo? Io non è che sono un miserabile, come dice Parenzo. Parenzo, come fai a definire Ciro da Salerno, che è un impiegato, un proletario? Ciro è una brutta persona, non un proletario, sostanzialmente un operatore della sanità, il quale io penso che gli stessi ha cenato soldi con un panino e poi si è avviato tranquillamente, magari verso casa, oppure è uscito da casa, adesso non lo so. No, io non penso. Ha intercettato una prostituta quale ha consumato un rapporto sessuale. Come fai a condannarlo quest'uomo? Dimmelo. No, non solo lo condanno, gli dico che non è una questione di soldi, di disponibilità economica, perché poteva, come dire, corteggiare una collega di lavoro, magari prenderla per mano e fare una bella passeggiata a lungomare Caracciolo. Però secondo me mi hanno detto, io esco con te e trombo con un altro. Parenzo, è facile a parlare quando ci si accalpa. Ma tu non riesci a rimorchiare. Parenzo, diglielo in faccia. Sì, per dire alti e bassi, Cruciani. Diglielo in faccia. Non è che si romba sempre. Diglielo in faccia, Parenzo. Ciro, sei un miserabile. Diglielo. Ciro, sei un miserabile. Ciro è un miserabile, ma che vuole riscattarsi, perché si capisce che ha un disagio dentro. Parenzo, cioè per cause di forza maggiore, perché io quando ma si capisce che lei manifesta un disagio. Ma non manifesta nessun disagio. È contentissimo di essere andato. Io non guardavo proprio le mignotte, per dirti, cioè, prima, è normale che essendo da solo ha ragione Parenzo, è l'occasione che rende l'uomo miserabile. Lei, ecco, vedi, bravo, già è un principio di... Ma non è vero. Come dire, di redenzione in corso. Vuoi continuare ad andare a puttane tu? Io no, per l'amor di Dio, Cruciani, era per cause di forze naturali, a dirvi la verità. Io accuso lo Stato, perché... Come io, lo Stato. Tromba, come è andato? Come è andato con questa puttana innanzitutto? Come è andato? No, ringraziando a Dio, dopo trombato. Io accuso lo Stato perché io accuso ringraziando a Dio, ho scopato, tutto bene. Ma chi se ne frega, però scusi, io non ho capito perché deve interessare Dio. La radio 24. Si scopre a una. ti danno 4-5 anni se ti va bene, te li fai tutti quanti in carcere. Sì, sì, sì. Se fai a mignotte ti fanno 500 euro, vai pure bene, che il codice prevede anche se questo della macchina, così mi sì. Il vigile, più la sospensione della patente di un anno. Questo non è buono, eh? 25 non è buono. Euro. Ma quanto hai pagato? Quanto hai pagato? 25 euro. No, dalla puttana dico. Sì. 25. Che hai fatto? Quindi, 25 euro, che è una roba 25 euro, bocca figa. A dirti la verità, dove solo fate a Salerno di fronte da Siniscalchi, di fronte a dei panini, di Timbetto, ti dico pure tu. Ciao amico mio, fermo, mi devo fermare, fermo, ciao. Poi, grazie. Chi sei, Cruciani? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare? Parolacce? Vogliamo fare? Che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, le fa un complimento, non lo deve trattare male. Non lo deve trattare male. Ma avete fatto un cazzato? Non sei buona, una persona vi tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e parezzo vuoi far filippino in un sassetto un attimo, vattene a far culo al bagno, no? Hai capito, mo? Hai capito, mone? Da dare un cazzo! Hey, I got a message tonight, I'm gonna send it. Non sono di Empoli. A Empoli nella mia vita probabilmente non ci sono nemmeno mai stato. Però stavolta ci voglio andare. Voglio andare a Empoli a puttane e voglio che la multa venga recapitata a casa mia e che mia moglie sappia una volta per tutte e definitivamente che io, suo marito, vado a puttane e ci vado con orgoglio. Voglio essere sanzionato, voglio che la multa mi arrivi a casa, voglio la gogna. E niente Zanzarosi, la mia collega ha preso un colpo di frusta con l'aria condizionata in ufficio, è scesa giù qua a Milano dalla cinesina che faceva i massaggini per cercare di fargli passare sto torcicollo, e niente, a fine massaggio la nostra amica cinesina gli ha detto: ecco fica, viva l'Italia! L'Italia libera, caro Davide, l'Italia libera che non vuole restrizioni da questo punto di vista. Va nei centri massaggi cinesi, va a prostitute, non vuole multe, vuole libertà, vorrebbe i bordelli, invece è costretta, come il karma, ad andare in Austria, ad andare in Svizzera, ad andare in Slovenia. Aspetta, stai ribaltando ancora una volta. Concedere denaro ai imprenditori stranieri, vergognati. Ma questa è la trasmissione che ribalta tutto, adesso il karma è il nuovo partigiano resistente che è costretto ad andare all'estero per... Ormai, assolutamente, se ci fosse un bordello a Roma, tu, non andrebbe. Guarda, posso dirti, tu ribalti, è la trasmissione in cui si ribalta quello che dovrebbe, è una cosa vergognosa. No. Leggo da qualche parte, aereo di Stato, scorta e resort, la vacanza di lusso di Napolitano. Fammi dire, non l'ho detto in apertura. Aspetta, fammi completare. Il giornale. No, è il tempo. 3 settimane di vacanza da sogno sulle Dolomiti in un hotel a 4 stelle con aereo di Stato e numerosi uomini di scorta per l'ex presidente Giorgio Napolitano. Vacanze da sogno a spese degli italiani anche quest'anno per Giorgio Napolitano. Ma cosa Come riporta il tempo, per 3 settimane fino all'8 agosto l'ex presidente della Repubblica in compagnia di sua moglie Clio si è trasferito a Sesto Pusteria. Sulle Dolomiti, Sesto Pusteria, a bordo di un trireattore Falcon 900. Un trireattore? Un aereo? Come deve essere un aereo? Un trireattore? Deve avere un'elica? Falcon 900 del 31° stormo delle radio militari. Ma che ho capito? Ma e io chi? Pago! E no, io scusami, pago! Dice, è come se io ti dicessi, Cruciani, a bordo di una macchina a 4 ruote. Tu mi spieghi, scusa, perché Napolitano va in vacanza con l'aereo di Stato? Tu me lo devi spiegare perché. Perché tu è un ex capo del, è capo ma di spiegami Stato. Perché. Spiegami ma perché. Ascolta, Napolitano, ascolta. Per cui ho grande rispetto, va in vacanza con l'aereo di Stato. Me lo devi spiegare, io non lo capisco. Intanto la vacanza se la paga lui. Quello non lo so. Lo vedremo quello. Sarà libero un signore di quasi 90 anni. 4 stelle e 500 euro a notte per due. Oddio, 4 stelle, mio di 5 stelle deve andare. Ma ci credo. Però, vabbè, ma no, c'è anche la stanza lui. Con il caminetto per quello. Se paga lui va bene, se paga lui va bene. Con spa. Spero che Oddio, paghi lui. Io spero è paghi andato lui. In una stanza con la spa. Spero paghi e lui. Allora qualcuno chiamerà e dirà: ehi, casse integrati. cosa c'entra? No, questo non c'entra niente. Perché devi alimentare? Ma no, ma perché spero poi c'era paghi lui, ma perché ma deve andare 4 stelle superior? Ma che sei a fare i conti a lei? Ma voglio dire, ma avrà messo da parte dei soldi? Saranno soldi suoi sicuramente. Perché però con l'aereo di Stato? Perché con perché ci ma, sono norme di sicurezza a tutela dell'ex presidente della Repubblica. Vabbè, non metto che peraltro, come vedi, sta sulle palle a molti, e non so perché, purtroppo, visto che è stato un grande uomo di Stato, uno dei migliori ministri. Senza dubbio, chi lo dice? Altri lo criticano. È stato uno dei migliori ministri degli interni che l'Italia abbia mai avuto. Ma questo lo dici tu, facendo una legge la turco napoletana. È stato uno che ha praticamente aiutato una specie di golpe in Italia, amico mio. Cosa ha fatto? Alcuni sto dicendo. Ma c'è un'altra volte? Corrente di pensiero, non c'è solo la tua di corrente ma di pensiero. Ma sono d'accordo, ma dopodiché come si fa ad attaccare un ex capo dello Stato di 90 anni? Ma sì, ma perché tutti si possono che attaccare. Che va in una ma no, ma è pretestuoso, aereo che va di Stato, con la moglie. Aereo di Stato, dico solo aereo questo. Di Stato. Intanto, ma è come l'hai detto, un Falcon a quattro motori. Trireattore. Ma doveva avere un'elica. Un falco, Cruciani è arrivato a Roma alla sede della 7 a bordo di una macchina nera con quattro ruote. No, vabbè, e quante c'era? Ruote deve avere la macchina? Mica paga lo Stato. Dai. Allora, nel frattempo la Brambilla attacca. Siete dei i miserabili, circhi. La Brambilla attacca. No, questo nel non mi piace. Meanwhile, sì, frattanto, la Brambilla attacca i circhi. Ecco, mi dai l'occasione per dirti che mi ha scritto, chiedo scusa, ma non è una marchetta. Sì. Mi ha scritto il signor Togni l'altro giorno. Sì, l'altro sì. giorno. Beh, ti sì. saluta moltissimo. Ottimo, sì, ed è disperato Togni. Perché ha paura che in questo momento vogliono cancellare i circhi. Noi siamo dalla parte dei circhi. Totalmente. Per quanto noi possiamo fare. Non so quanto potremmo fare, però nel nostro piccolo siamo dalla parte dei circhi. Anzi, ti dico di più, da settembre Cruciani e Parenzo sono anche disposti, caro Togni, a venire, sì, fammi dire, alla ripresa della Zanzara siamo disposti a entrare io e Cruciani nella gabbia dei leoni, magari va Cruciani nella questo gabbia dei leoni, io vado buono. In quella degli elefanti. È un'ottima, no, col cazzo, scusa, sì, no. È un'ottima idea, possiamo allora, andare come testimonianza sì, di vicinanza ai circhi, dire, a esatto. partecipare a una grande siamo serata. Pronti, a Roma o a Milano, insomma, facciamoci questo, calare dall'alto. Facciamoci bellissimo, calare dall'alto. Stupendo, stupendo, meraviglioso. La Brambilla, sentiamo. No, no, ma lo facciamo davvero. No, eh? Ma non sto scherzando, sul serio. Assolutamente. Brambilla. Se entriamo nel discorso dello specifico del circo, è chiaro che le condizioni in cui questi animali vivono non rispettano minimamente quelli che sono i loro diritti. Quindi voi avete mandato un servizio adesso dove una tigre camminava su due zampe, ma sapete che forma di maltrattamento è questa? Ma portare i nostri figli sotto un tendone è una cosa che io non ho fatto mai e mai farò, è una cosa sbagliata, perché vuol dire insegnare loro che il rapporto tra l'animale e l'uomo è quello dell'umiliazione. Ritornerò a brevissimo da lei ai diritti degli animali. Allora, cosa c'entra l'umiliazione? Cosa c'entrano la tigre maltrattata perché è con due zampe? Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Senti questa cosa qui, poi a un certo punto c'era anche Librandi, che ogni tanto una cosa giusta la dice, che dice alla Brambilla, ma hai chiesto alle tigri se vogliono stare nel circo? Questo è giusto, bravo. Senti, sì. Senti c'è Librandi. Io penso che gli animali dovrebbero rimanere nel circo. Per assurdo, mi piacerebbe, se fosse possibile, chiederlo agli animali se preferirebbero stare nel circo se o se preferirebbero essere gestiti dalla signora no. Brambilla. Peraltro ma mi chiedo, dai, ma non mi diciamo, chiedo, io non permetto, no guarda, io non permetto, questo tipo non di dibattito, non lo permetto, una cosa perché che non si capisco, possono perché i dire delle cose di questo genere, gli animali devono mai. Stare nel quindi, loro ambiente questo, naturale, quindi questo parliamo... Ma chi l'ha detto che devono stare nel loro ambiente naturale? Chi l'ha deciso? Chi l'ha deciso? È una follia, è una follia. Giustamente Librandi dice, hai chiesto alle tigri se vogliono stare là o no? Hai chiesto alle tigri e qui si vede la differenza tra la tigre e un essere umano. Se chiedi a un essere umano, vuoi andare al circo? Ti risponde, sì, no, non mi va, vai a fare in culo. La tigre non si sa che cosa risponde, no? Cioè, no. A meno che non ci sia qualcuno che riesce a divinare, a indovinare quello che pensa la tigre. Ragazzi, dai, Ernesto da Roma, vai. No. Dimmi, Ernesto, dimmi. Cruciani, buonasera. Senti, io Ernesto, è quello del libro sui cravattari, stupendo, sì, Ernesto. E mo uscirà il prossimo, la mia prossima fatica, i Rimba e Bamba, i Rimbambiti e i Bambagioni. Beh, ironia e satira sulla terza età e dintorni. Vai Ernesto, vabbè, vai, vai. Allora, volevo chiedere a quell'emerita e simpatica testa di legno di Parenzo. Eccoci, vedi che io intuivo già questo qui dove voleva andare. Sì, prego, buonasera, sì. Grazie per essere intervenuto. No, ma non c'entri niente, sei legato ai Rimba e Bamba, però ti volevo chiedere dove ti andrai a nascondere con i tuoi compagnucci l'anno prossimo alle elezioni politiche, quando stravincerà la destra. Tu sparirai completamente, perché è un bel modo di affrontare. Perché, scusami, perché dovrebbe scomparire? Spiegami. È perché ti pare che la Confindustria ti tiene con la destra al governo. Ma chi gliene frega la Confindustria? Ti assicuro che non gliene frega, ha altri problemi, ti posso assicurare. Come? Va a finire a pane e acqua, non alza più una lira, anche Cairo gli dà un calcio in culo, guarda. Ti ringrazio, grazie per questo tuo desiderata. Forse c'è una cosa che lo salva con la 7, come ho letto su un post su Facebook, che c'è un'amicizia tra la moglie di Parenzo e Cairo. Questo sta in no, veramente non risulta questa cosa. Ma posso dire che non c'è moglie perché non sono sposato? Ma quindi può darsi che questa amicizia che lega la moglie è una cazzata. C'è capito? È una cazzata, ma su Facebook c'è un gira po'. Di tutto. Allora gira di tutto. Ernesto, bravo, hai detto. Poi però Cruciani il culo almeno alla 7, capisci? Però puoi spiegare tu veramente in questo caso davvero, perché io tollero qualunque cosa, però puoi spiegare tu che non ha neanche mai sa neanche che faccia c'abbia il presidente. Non sa neanche chi Facebook, sia la... Ma che hai letto su Facebook? Io ho letto su Facebook che lei è un coglione. Ma questa è la verità. Io però ho letto che tu andrai proprio a dirigere il traffico, ai semafori, a chiedere la carità. Ciao Ernesto, ciao. Auguroni, in bocca al lupo. No, ciao. Grazie. WhatsApp che mi arrivano da Napoli. Ma tu ti rendi conto? Senti, però, Davide, cosa devo subire? Ma ti WhatsApp rendi conto? Che puoi da spiegare Napoli? Almeno che non. Io subisco cose anche peggiori, dai. WhatsApp che arrivano da Napoli. Crucians, devo dirti la verità: per la morte di Indro Montanelli mi sono dispiaciuto tanto. Ma ha ragione Gaetano: se muore Feltri non ce ne frega un cazzo. Anzi, prima crepa, meglio è. Perché questo è un parassita e fa solo danno, sto pezzo di merda, si è solo arricchito con i soldi di Berlusconi e non vale un cazzo. Che se uno che dice che Napoli si brucia da solo, questo uomo di merda, e poi non ha detto niente per gli altri posti dell'Italia che hanno preso fuoco, cioè proprio è una presa di posizione preconcetta e razzista, questo uomo di merda qua. Quindi prima butta il sangue, meglio è, sono d'accordo. Allora, cosa devo fare con quest'uomo io? Poi ne ha detta anche un'altra su di me, senti. Oh chance, certo che prima o poi se qualcuno ti piazzerà una spranga all'interno della scatola cranica, a me francamente non dispiacerà. Pino da Napoli, ciao caro. Ma ciao caro cosa? Ciao caro cosa? Queste sono le tue amicizie che hai coltivato nel corso degli anni. Ma ciao caro cosa? Questo è quello che tu hai seminato, Ma non dire cazzate, non ho seminato niente del genere, dai su, non dire puttanate, dai. Ci voglio parlare con questo qua, ci voglio parlare. Ah signore. Oh. Pino? Oui. Traditore della patria, Pino. Oh. Vigliacco. Che cos'è? Una spranga in testa a me, la morte a Feltri. Avanti. Fatti avanti. Che ridi, coglione? Bastardone. Cosa ridi, imbecille? Cosa ridi? Stronzo. Cosa ridi, deficiente? Bello cosa dialogo, ridi? Però. Auguri la morte a Feltri e una spranga in testa a me. Quella è una chiavica proprio, guarda. Ah, sì. Perché quel razzista di merda è proprio una chiavica. Ah, è proprio una chiavica. Un razzista di merda, proprio stronzo. Ma tu lo sai che io sono buono e non ti querelo? Cioè tu sai che io sono buono, non sono come Parenzo, io sono buono e non dico nulla, altrimenti darei queste cose alle persone che competenti. Vabbè, e ti farei querelare da Feltri per minacce, capito? Ma che minacce? A me non me ne frega niente la spranga, perché scusa, non capisco la spranga in testa a me. Cioè questa cosa non la capisco. Lo sai che è una cosa grave, sì? Che qualcuno ci potrebbe pensare, lo sai che è grave, sì? No, aspetta, metti bene il telefono, parla chiaro. Chi ci pensa? Non esagerare. Non esagerare. Questo ride. Questo ride, questo coglione. Questo coglione ride, capito? Lei dice delle cose tragiche, drammatiche, che neanche si rende conto. Ma scusa, tu sai, capito? Pino, che sei un coglione. Cioè, tu uno devi dire: sono un coglione. Perché non lo ammetti chiaramente? Sono un coglione. Ma non so, ma perché sono un coglione, va bene, ma assurdo. Ma non ti vergogni per quello che hai detto, no? Non ti vergogni? Ma no, ma perché? Ah, perché? Ma solo perché, ma c'è proprio, cioè, ti diverti quando... Quando devi sparare su Napoli ti diverti proprio. Ma siamo qui, faccia a faccia, dimmelo che merita una sprangata in testa. Dillo chiaramente, dillo. Ma che co? Ma che co? Dillo. Che devo dire? Dillo, ti meriti una sprangata in testa, dillo. Ah, non lo dici adesso faccia a faccia, te la fai sotto. Ma no, ma vai, figurati. Auguri la morte a Feltri. Feltri deve morire, secondo te? Ma no, ma dai su, Ma dai su, vai su, sei un coglione, ciao, ciao. Sei un imbecille, ciao, ciao. Ciao. Mi fai fa un pompelmo d'era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Ebbal. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... Renzo, io sono sotto la 7, perché mi fai aspettare? Pensa invece che sfiga se mi chiamassero testa di Parenzo, sarebbe proprio un'offesa grandissima. Coglione! Sei sui coglioni, ma quando dici che Duce la testa di cazzo, sei number one, sei al top, sei il massimo, grande Parenzo. A parte il fatto che ci vuole tanto coraggio, perché effettivamente Duce era una grandissima testa di cazzo, ti sei dimenticato di dire grandissima. Cruciani, non t'azzardare a venire a Napoli che ti becco e ti rompo la testa. Hai capito? Hai capito? Come? Hai detto che non sono un sacco di anni che non viene a Napoli e non ci venire mai, perché ti rompo la testa. L'altra cosa non te la posso rompere perché già ce l'hai rotta, però ti rompo la testa. Caro Davide, riprendiamo. Ecco, è successa una cosa incredibile in queste ore che ci hanno separato, diciamo, non me te, ma insomma ero qui negli uffici della 7. Mi è stato recapitato un regalo, perché mi hanno detto che fuori dalla 7 c'è questa... Esattamente, ti stanno aspettando. Mi è arrivata una bottiglia di Prosecco. Tu eri impegnato qui a Radio 24, d'accordo. Eri impegnato qui. Ho capito, stavi lavorando, ma ti hanno chiamato poi da non giù. È che può entrare chiunque. Elena da Milano ti è venuta a cercare. Che sarebbe la signora che dice quando vuoi. Esatto, ti è venuta a cercare con tanto di cavigliera. Ma mi hanno infatti recapitato. Con tanto c'ho una di bottiglia cavigliera di Prosecco che mi ha portato. È stato un gesto molto molto gentile da parte di questa con signora. Con tanto che... di cavigliera con era pronta lì a darti un bacino in fronte. Poi se volevi la schienavi sul posto. Esistono adesso, dei bagni lì alla 7. Ma come parli? Ma non mi permetterei esistono mai. Esistono dei bagni dove si può scopare tranquillamente. Ma cosa stai dicendo? Ma tu comunque forse sei, non lo sai. Sai, ma sai tu che lo sei una sai persona pericolosa. Tu lo sai che nei bagni delle aziende non è vero. Ma non qui, questa azienda serissima questa. Ma dove la dove senti, sei io tu? Io so che nei bagni della 7 è abitudine trombare. Ma non dire ma devi qual è il problema? Zizzagne? Ma non c'è nulla di strano. Perché devi diffondere stupidaggini? No, ma comunque, in tutti fatto i che è vero, mi è stata recapitata, lo posterò su Instagram o sugli altri social network. Sì, sì. Questa bottiglia che mi è stata recapitata, non so da chi, però. No, perché mi fai veramente schifo, lo sai? Mi fai veramente schifo. Cioè, lei hai praticamente respinto. No, ma non ho respinto nessuno, solo in un ufficio, non è che posso far salire chiunque. No, hanno detto a questa signorina, mi hanno mandato dei messaggi anche. Questa Elena che ti vuole schienare, che tu vuoi schienare. Ma tu lei forse che voglio schienare. Ma questa signorina vorrebbe, io, voleva semplicemente salutarti. No. Si è presentata lì incredibilmente alla tua corte, tua corte, e lì all'ingresso hanno detto: no, non è possibile nemmeno per un secondo, in questo momento è impegnato alla radio. Ho capito, e dopo dovrà essere in trasmissione. Beh, ho capito, ragazzi, però ma uno deve essere anche... C'è un cordone di sicurezza, ma evidentemente a difesa. Dai, però sì. No, veramente ho ricevuto, quindi ringrazio. Comunque, ragazzi, chi ha portato questo presente? Elena, devi ringraziare Elena. La cosa incredibile dell'Italia. La cosa, intanto diciamo che la ragazza in Arabia Saudita è stata rilasciata. Per fortuna è stata rilasciata, perché non aveva postato lei il video. E poi diciamo anche un'altra cosa, amico mio. È stato rilasciato anche il guineano 31enne che accoltellò il poliziotto alla stazione centrale di Milano. Cioè, praticamente, siccome il reato è passato da tentato omicidio a lesioni, questo signore, già precedentemente allontanato dall'Italia, è rimasto sul territorio italiano. Sì, no? Sì, questo signore è stato scarcerato. Cioè, praticamente tu hai un coltello in mano, aggredisci un poliziotto alla stazione centrale di Milano e poi vieni scarcerato. Adesso, Davide, non mi venire a parlare di giustizia che funziona, no, eccetera. Ma dai, ha provato a coltellare un poliziotto e lo rilasciano. Ma la gente cosa deve pensare? Che funziona la giustizia in Italia? Deve pensare questo? Dai, ma cosa vuol su. Dire? Ma non è che alcuni casi fanno scuola, dai, su. Va bene, non no, allora non è grave, non è grave. Ma d'accordo, no, una ma è grave, tenta di accoltellare, non ho letto le motivazioni, però tu evidentemente le hai lette, oppure a prescindere dai il tuo giudizio e apocalittico. E poi amico mio, ti faccio ascoltare una cosa. Te lo ricordi il signor Carabue? Protagonista di mille battaglie dalla vostra parte. Amico mio, la mamma di Carabue, quello con la palandrana che viene invitato, scurissimo, nero, nerastro, che viene invitato, l'abbraccio fortissimo, per carità, il signor Carabue, che dice lui di fare il professore, sostiene di fare il professore. Comunque, noi ci crediamo che fa il professore, no? Tu ci credi che fa il professore, David? Certo, perché ci no? Benissimo, allora, perché, questo signore Carabue... la madre di questo signore, per 650 euro al mese, pare affitto superiore alla media del luogo dove abita, che si chiama Adelfia, ospita 8 migranti. Cioè, il grande sostenitore dell'immigrazione in Italia, la madre, che profitta, che fa profitto con i migranti. Cioè, la signora Carabue... Ma profitto? La signora perché Carabue, devi dire profitto? Perché la devi famiglia essere... Carabue... Per 650 euro al mese, dal giugno del 2014, ospita 8 persone nella casa mobiliata di 4 vani, con box auto usato come deposito in via Piscina Nuova, a, non so dove cazzo è, a Adelfia, vicino Bari. Ragazzi miei, non mi dire che non c'è un conflitto di interessi qui. Ma cosa vuol dire conflitto di interessi? Carabue. Ti piace Carabue. Anche il nome a te. Sì, a me piace tantissimo. Sentiamo Carabue. L'accoglienza diffusa possa essere oggi la vera risoluzione al problema, perché guardate, se noi ospitiamo in piccoli centri come gli appartamenti, come io stesso a mia madre ho consigliato, ma come comunque succede, sono completamente estraneo allo sprar a cui ha voluto aderire mia madre, che è l'accordo per i migranti. Non interferisco nelle sue scelte, non ho alcun ruolo. Vabbè. Dove andiamo? Lino da Matera, vai. Lino da Matera. Dimmi, Lino, dimmi. Pronto? Dimmi, Lino, senti, dimmi. Allora, al di là del fatto che voi abbiate qualche cosa contro i napoletani, a me comunque... si vede. Ma non abbiamo nulla contro i napoletani, niente, assolutamente. Vabbè, io non ho niente contro i napoletani. Mi dispiace che uno non ammette i propri limiti. Ti faccio sentire delle voci, ti posso fare sentire fra poco delle voci sul casco? Dopo te le faccio sentire, delle voci raccolte tempo fa, perché le cose vanno anche ricordate, no? Cioè, è un posto, come tanti altri in Italia, non solo, un po' a parte rispetto all'Italia, dove vige spesso in alcuni quartieri, in alcune zone, una legge diversa rispetto a quella dell'Italia. Ragazzi, ma non possiamo dire che alcuni paesi della Brianza hanno le stesse, ci sono le stesse regole che a Napoli. No, ci sono altre leggi, altre regole, tutto un altro modo di vita. Va benissimo, però uno non è che non lo deve ammettere. Lino, dimmi, sì, dai. Sì, sì, ma è come ammettere che, in fin dei conti, chi trucida e ammazza i genitori non è che stanno a Napoli o a altre parti. Vabbè, comunque, le teste di cazzo allora stanno dappertutto. Ma questo non c'è dubbio. Al di là del fatto del... Io volevo parlare del nostro beneamato, benemerito PM Napolitano, che non è... Che PM, che c'entra PM? pezzo di merda, no? Ma Solino, tu stai attaccando un'altissima carica dello Stato, però in questa trasmissione si può fare. Cioè Lino Domenica dice napoletano è un pezzo di merda. Perché è un pezzo di merda secondo te? Per tutto quello che ha fatto all'Italia, insomma, non è che altri abbiano fatto del meglio, però lui comunque ha contribuito, ma al di là di qualsiasi cosa, che se ne vada in ferie a spese dello Stato. Siamo proprio ai a spese dello Stato. Allora, amico mio, io non so, probabilmente, come dice Parenzo, l'albergo in Trentino se lo pagano loro. Sì, avendo anche una lauta pensione, no, Parenzo? Un lauto vitalizio. Ma quello però non è una sua colpa che ha un lauto. No, io non ho detto questo. Avendo un vitalizio, cioè, lo fai passare avendo, come un criminale. No, lo sto facendo passare come lo sto raccontando. Ha lavorato per una vita, perché fare politica, se la fai bene onestamente, sei come Caprarica. Tu ma sei no, come ma se, è il buon senso, scusami. È ragazzi, una persona che per tutta la vita si è dedicato al paese. Ma perché deve andare ancora con l'aereo di Stato in vacanza in Trentino? Tu me lo devi spiegare, perché ha usato l'aereo di Stato per trasportare un ex perché presidente della Repubblica. Perché evidentemente ci sono anche misure di sicurezza. E quale sicurezza? Sono Napolitano, ma dai, danno lo scorto a tutti in Italia. Cruciani ha deciso. Lino, che vuoi aggiungere? Lino, dimmi. Con la sua età, se andassi in un supermercato come fanno tutti gli anziani. Adesso uno può andare dove vuole, però non è che uno deve andare per forza al supermercato. Se quello vuole andare in una spa in Trentino, se paga, metti i soldi, metti tu di cash, di tasca tua, vattene con il macchinone, vattene con l'autista, però non rompessi con gli non contribuisse alla rovina. Lo so che non è una rovina, però tante formiche che mangiano il ma quello è giusto. I voli militari, i voli di Stato vanno utilizzati per le cose importanti. Ma sì, non per andare in vacanza, appunto. Caso su questa ma, roba. Ma che vuol dire non farne un caso? Uno legge una cosa e te la riporto. Hai detto delle cose terribili. Maurizio, che non hanno... io sto dicendo delle cose terribili. Io ho letto quello che è successo. Ma sì, è andato o non è andato con un trireattore Falcon? Con un trireattore ancora, sì. Con sto trireattore. È andato o no con un trireattore Falcon? Ma cosa vuol dire trireattore? Cosa vuol dire? È andato con un trireattore, punto e basta. Maurizio, un aereo a spese nostre, punto, basta. Per andare in Trentino in vacanza. Non si fa. Non si fa. Maurizio da Roma. Quando era presidente della Repubblica va bene, io non l'avrei fatto nemmeno da presidente della Repubblica, ma da ex presidente non si fa. Maurizio pronto? Da Roma, dai, secondo me, poi magari ci saranno ragioni pronto? Altissime. Dimmi, Maurizio, dimmi. Sentite? Dimmi. Ah, niente, allora io intanto faccio niente, parte della perché maggioranza. Niente. Pronto? Faccio sì. Parte della maggioranza silenziosa e di quelli che perdono tempo a stare assenti. Allora, secondo voi, vabbè. No? Allora? Le forze dell'ordine che fermano quelle povere persone, come dice Parenzo, che vanno a donnine, no? Ma secondo voi queste forze dell'ordine non hanno la loro donnina personale che dopo ci tornano? Secondo voi? Non lo so, probabilmente sì, come tutti gli esseri umani, anche nelle forze dell'ordine ci sarà gente che va a puttane, non c'è dubbio. No, ma no, non è ma che vanno. Ma chi? Hanno proprio la loro fissa, questo lo so per certo, perché ho un amico che lavorava. Quelli tornano là per mettere a tacere tutto quanto per far ma non lo so questo quello che fanno dopo dai quindi, su Maurizio come faccio a saperlo dai no te lo dico io e vabbè te lo dici ci saranno alcuni casi in cui quelli tornano e vanno con le mignotte vabbè d'accordo ma no, e allora perché devono fare multe ma che c'entra ma quelli seguono un ordine no se gli dicono vai là a fare le multe vanno lì a fare le multe Maurizio ma che dici cioè, è ipocrisia ma l'ipocrisia non c'entrano niente le forze dell'ordine vanno sempre difese vanno sempre a meno che non commettano delle atrocità in questo caso seguono degli ordini il sindaco dice ai vigili urbani andate lì scoprite quello di Empoli no scoprite se questi scopano una volta che avete scoperto se questi scopano multateli follia però totale dopo, ma quelli seguono lì, ma non lo so se vanno loro dai divisa, Enrico da Alessandria ciao Mori ciao Enrico vai ciao Cruciani ciao vai, volevo dimmi. Solamente fare un paio di paroline con Parenzo che mi sembra in forma stasera volevo dire di questo caro Parenzo l'80% delle persone che ti telefonano ti insultano tutte. No, ma non è vero, non è vero. No, hai ragione, vabbè, l'85%. Vabbè, quindi allora? Lui giudica tutti idioti, quelli che lo insultano, quelli che hanno le sue dunque, politiche. No, ma dipende da quali argomenti utilizzano, sai. Allora, questo... ti aumento, ma allora, scusa, se uno va a puttane, tu sei dici, no, non devi andare a puttane. Ma uno ha le sue idee, Enrico, cosa vuoi dire? Posso dire che uno che va a prostituta è un miserabile perché commette due cose per me indegne? Ma cosa commette? Uno che non ha possibilità di andare con delle donne normali, perché è brutto, perché non ne trova? Cosa fa? Va a incularsi delle vacche? Beh, ma questo... che cazzo stai dicendo? Adesso anche questo mi pare alcuni luoghi, in alcuni luoghi è anche successo questa cosa. Grazie Enrico, ciao, fermi tutti, fermi. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? Scusate, ma che cosa c'è di male di andare a puttane? Uno va a puttane, si fa una scopata, sta tranquillo, si rilassa, torna a casa, c'è la moglie, pazienza, è un single, pazienza, ma che c'è di male? Allora, caro David, però una delle storie del giorno importanti è, diciamo, anche la fotografia dell'Italia, diciamola tutta. Una delle tante fotografie dell'Italia è questa storia che viene dalla Calabria e che incrocia anche la Lombardia, volendo. A proposito, quando è che si deve firmare? Dove si deve firmare per trasformare la Lombardia in un altro cantone svizzero? No, io vorrei l'annessione, no, lascia perdere il referendum. No, io vorrei, ma chi se ne frega, quella è una puttanata. Io voglio l'annessione della Lombardia alla Svizzera. Sono favorevole all'annessione della Lombardia alla Svizzera. Io vado oltre. Io vorrei che la Lombardia, dove vivo, si staccasse dall'Italia e facesse parte della Confederazione Elvetica. Sarebbe straordinario. Leggo da qualche parte che c'è qualche. Ma sarebbe stupendo, meraviglioso. Bisogna avere uno spirito rivoluzionario. Non bisogna essere conservatore. Tu sei reazionario e conservatore. Questo è il punto. Sei conservatore. Sei conservatore a fare tic-tac, tic-tac. Cioccolata e banche, dai. Belle montagne. Allora, ragazzi. La vera storia però viene dalla Calabria. Docente assente un per paese che non ha storia, ma docente assente per meglio un posto che non ha storia. Docente assente per belle montagne, banche importanti che per docente anni hanno mantenuto il segreto fiscale. Docente assente per 1500 giorni. Ma secondo la finanza faceva l'avvocato in Calabria. Alfredo Mercatante, un professore in un istituto di Lodi, ex sindaco di San Costantino Calabro per il PDS, legato a Libera, è stato arrestato dalle fiamme gialle. Allora, Alfredo Mercatante, amici miei, questo qua, sapete cosa faceva? Era a Lodi a fare il professore, anzi non era 1100 giorni, 1500 giorni di assenza, però faceva l'avvocato lì. Io una telefonatina la farei, e ai domiciliari, però pronto? Mercatante? Sì, buonasera, qui Milano, Radio 24. Buonasera signora, lei è la moglie? Sì. Salve, c'è suo marito? Mio marito non può rispondere al telefono. Come mai non può rispondere, scusi? Oh mamma mia. Ma perché? Radio 24. Sì, Radio 24, sì. Radio 24 da Milano, in solo 24 ore. Ma non può rispondere per questa storia dei domiciliari, perché? Certo, per questa storia dei domiciliari. Però signora, scusi, dica Parenzo, che così si ricorda magari. Parenzo, dica Parenzo. Parenzo, o Mercù. Ma non può rispondere. No, ma forse è parente, Mercù, è un Andro Mercù, provi a dire Mercù, magari si ricorda. Ma perché? Ma non è importante se si ricorda. No, ma siccome siccome c'è Mercù, adesso non è la radio, è Mercù che è un suo vecchio amico, peraltro, di quando stavano insieme alle cose. Mercù, gli dica Mercù, se gli dice Mercù, magari riconosce la voce. Ma non può rispondere proprio? Senta, lei lo sa che mio marito è domiciliari, sa bene la motivazione. Signora, ma è vero che lei, scusi, no, ma la so benissimo, scusi se la disturbo, ma è vero che lei faceva ogni tanto delle iniezioni perché c'aveva mal di schiena, stava male, è tutto vero? Allora, io, quello che ha dichiarato mio marito è verità. Senta, io non sono tenuto a rispondere. No, ma le do... No, signora, scusi un attimo, è vero che suo marito stava male quando stava a casa, lei doveva fare delle iniezioni, eccetera? Ma questa è un'intervista, io non accetto interviste, mi dispiace. Ma ho capito, questa signora faceva il professore da una parte. Allora mi ritelefoni dopo il periodo di custodia. No signora, scusa un attimo, pare che facesse il professore da una parte e l'avvocato dall'altra. Beh, c'è un po' da vergognarsi per questa cosa, o no? Ti vergogni lei. Ma scusi, ma uno fa il professore da una parte e l'avvocato da un'altra parte. La roba è incredibile, ragazzi. Riproviamo, no? Riproviamo. Non lo so, forse ho esagerato. Cioè, nel senso, ho insistito un po' troppo su questa cosa qua. Tu bravo, però, hai messo in mezzo un'amicizia tra Mercù e questo signore. Sì, che improbabile amicizia. adesso andiamo calmi, perché questo è bello, telefonare a casa di uno che è ai domiciliari, è stupendo. Sì. Cioè, casa di uno ai domiciliari. Ho capito. Allora, niente, questa cosa mi fa godere tanti. Aspetta. Sì. Vecchio amico d'infanzia, Andro Mercurio. Non risponde più la signora. Si è incazzata. Beh, no, poco da arrabbiarsi. Deve arrabbiare con suo marito. Sai, c'è inchiesta in corso, assenteismo, guardie di finanza a casa, domiciliari. È un casino. Mauro dalla provincia di Roma, vai Mauro dalla provincia di Roma. Buonasera, volevo chiedere a Lorenzo sulla base di cosa definisce Napolitano un grande uomo. La gente è incazzata quando sente di Napolitano che va, quando sente Napolitano che va in vacanza con l'aereo di Stato, la gente si incazza. Come giustifica questa affermazione? Vabbè, secondo lui è un grande politico, che devi fare? Ma scusi, se dal mio punto di vista ha fatto una legge straordinaria che era la turco-napolitana in materia di immigrazione. Guardi, è stato un ottimo ministro degli interni, persona molto seria, un servitore dello Stato, persona che non ha mai rubato, ma di che stiamo parlando? Se c'è l'incoerenza fatta persona, questo è Napolitano, prima nei CUF e poi si riscopre antifascista, prima comunista e poi, come lo definiva Kissinger, il mio comunista preferito. Quindi certo, c'è un uomo, il primo comunista negli Stati Uniti, certo, un titolo di merito quello, ma certo. Comunque io non discuto con lei, non discuto con lei della storia. No, ma no, guarda, non me ne frega nulla. Non posso discutere con lei della storia del Partito Comunista e dei miglioristi di Napolitano, non discuto con lei. Posso discutere. Avete scocciato Davide da Milano, dai, basta con la storia, non discuto con lei. Davide Milano. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi Davide, dimmi. Buonasera, salve. Ciao. No, io sono basito per quello che è successo oggi. Che hai, viva voce? Viva voce? Auricolare? No. Auricolare? No. Guarda che mi incazzo, eh. Dai Davide, dimmi. Oh, Davide! Vincenzo Ancona, vai. Vincenzo, pronto? Dimmi Vincenzo. Allora Parenzo, io penso di essere una delle poche persone che è quasi sempre d'accordo con te. Sì, va bene. Siete in tanti, quindi benissimo. Benissimo. A parte quando, secondo me, butti quella storia delle prostitute, lì sinceramente la maggioranza silenziosa lì mi sta un po' stretta. Vabbè, allora? Niente, volevo ringraziarti soltanto per quello che mi hai fatto pensare con Testa di Duce. Testa di Duce è... Cioè, secondo te Testa di Duce è uguale Testa di Cazzo, va bene Vincenzo? Oh, Vincenzo! Sì, pronto. Allora? No, secondo me è meglio addirittura di Testa di Cazzo, perché il cazzo ha una sua utilità riproduttiva. Invece, Testa di Duce rende ancora di più l'inutilità di una persona. La dannosità di una persona. Sì, quindi sì, grazie Parenzo. Ciao Vincenzo, prego, ciao, ma ne ciao, conieremo ciao. Altri di ciao. Neologismi. Ragazzi, leggo da Mario Dinolfi. A scuola mi capitò di prendere qualche schiaffo. Ha criticato molto le cose che sono uscite dalla Tisbona sulle violenze nei confronti dei bambini. A Dinolfi. A scuola mi capitò di prendere qualche schiaffo. Li prese pure mia sorella. Per 8 anni sono stato formato in una scuola cattolica tra l'82 e il 1990. Qualcuno potrebbe ricordare quegli anni come un inferno e sono certo che un magistrato solerte del 2017 troverebbe centinaia di ragazzi vittime di violenze tra quelli passati in mezzo secolo nella mia scuola. A Ratisbona hanno fatto questo gioco sporco e anche un po' vile, per macchiare la Chiesa indirettamente Papa Benedetto XVI. Devono vergognarsi. Cara Dinolfi, lì ci sono anche notizie, non solo di violenza, a parte che gli schiaffi non vanno mai bene, cioè quando non sono, come dire, accettati dalle famiglie, quando non c'è una accettazione, per me non vanno comunque bene. E poi lì ci sono anche violenze sessuali, capito? Ciao. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore, Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi! Secondo me è meglio addirittura di Testa di Cazzo, perché il cazzo ha una sua utilità riproduttiva. Invece Testa di Duce rende ancora di più l'inutilità di una persona, la dannosità di una persona. Quindi grazie Parenzo. Ma speriamo che se lo paghi l'albergo a 500 euro a notte. Ma speriamo, perché questa è veramente una politica vergognosa. Cioè, una cosa veramente che fa cagare. Speriamo che se lo paghi i 4 stelle superior. Già il fatto di esserci andato con l'aereo di Stato, già quelli sono migliaia d'euro, ma tante migliaia d'euro. Ma chi cazzo gli dà tutti questi diritti? Questi sono come gli dèi sull'Olimpo, vivono su un altro mondo, sanno una sega loro della gente normale. Come cazzo possano, cioè, fare i nostri interessi questa gente? Come cazzo fanno? Ma... La signora Boldrini e il signor Parenzo sostengono che i negri, gli islamici, i rom vadano valorizzati, sono pienamente d'accordo. Anzi, io aggiungo un'altra cosa, vanno termovalorizzati, ricordatevelo, termovalorizzati. Questo è gravissimo, quello che dice questo. Questo è gravissimo, è gravissimo. Fa venire la pelle d'oca, sta gente. Simone da Milano, vai Simone, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi. Allora, io volevo dire una cosa. Io sono italiano e sono centrale ad accoltellare un poliziotto. No, aspetta che non sentiamo. Simone, che stavi dicendo? Mi senti ora? Sì, ti sento, vai. Stavo dicendo che sono incazzato per la storia di quello che ha coltellato. Sì, ma ti devi togliere l'auricolare, se no non si sente. Viva voce, quello che è. Però parla bene, dai, se no non ti sentiamo. Dai, Simone, dai. Allora, volevo dire che quel negro che ha coltellato il poliziotto in stazione centrale è stato subito liberato. È una merda, perché se io coltello... Niente, Valerio dalla provincia di Brescia. Dai, richiamiamo Simone. Valerio, vai. Valerio! Sì? Dai, sì? Forza! Scusa, ciao a tutti. Allora, io sto vi disturbo per un fatto molto grave, per quanto riguarda... Ma tu che sei? Un uomo, una donna? Che sei? No, purtroppo sono una donna. Perché ti chiami Valerio? Sono una donna, tutti. Mi chiamo Valerio di cognome. Ah, Valerio di cognome, sei una donna. Sì, purtroppo. Sì, sì. Sono purtroppo. Una perché donna? Purtroppo? Sì, perché se purtroppo sei una donna? Perché se ero un uomo già li prendevo tutti per il collo. Ma chi? Ecco. Chi prende? Ma chi non vuoi prendere nomi per il collo? Non guarda, fai nomi. Tutti a questi pseudo animalisti che si credono dei grandi bonisti e sostengono, diciamo, questo DDL per quanto riguarda la dismissione degli animali. Ma tu sei lavori nel circo tu? Certo, lavoro nel circo. Che fai? Sì. Trapezio. Ah, una trapezista, bellissimo, sì. Una trapezista femmina. Che meraviglia. Meravigliosa. Ecco, io e David a ottobre, non so quando sarà, a novembre, vogliamo essere calati dall'alto. Sì. Come una manifestazione, come di solidarietà nei confronti di Cina. Ecco, se vieni da noi ti possiamo anche fare un giro sul trapezio. No, ecco, no, Cruciani sul trapezio, ma senza la rete di protezione sotto. No, Cruciani. Gli mettiamo anche la cintura di sicurezza, perché a quanto pare è l'unico che ha i coglioni di dire la verità. Sì, d'accordo, quello d'accordo. Però senza la protezione. No, io dico quello che penso, sotto, non so se è la verità o no. Io dico quello che penso, la verità. Io invece vorrei entrare a cavallo di un elefante, mi piacerebbe moltissimo. Sopra un elefante, a cavallo di un elefante. Non c'è nessun problema, da noi si può fare tutto. Vabbè, Valerio, noi siamo con voi. Qualsiasi limitazione, naturalmente ci vogliono i controlli e tutto quanto. Se vogliono se vogliono eliminare i circhi, noi siamo ma dalla parte circo dei è circhi. Il suo signore, che circo lavori? Sì. Tu circo di Mosca. Circo di Mosca, va bene. È importantissimo il circo di Mosca, straordinario. Scusa, ma non hai paura di romperti l'osso del collo facendo circo? No, assolutamente no. Zero? No. Ci sono i leoni al vostro circo? Certamente. Nel vostro circo? Che meraviglia, i leoni adoro quando... Ma saltano nel cerchio di fuoco o no i leoni? No, non saltano nel cerchio di fuoco. Che c'entra il cerchio fanno di fuoco? No, mi piace molto quando il leone salta nel cerchio di fuoco. No, non saltano nel cerchio di fuoco, saltano una ragazza che si mette in equilibrio a testa in giù. Sì. In spaccata centrale la saltano. Ecco, ma non si può insegnare al leone a saltare nel cerchio? È un classico del circo. Lascia perdere il cerchio di fuoco. Si può insegnare benissimo, l'unica cosa... noi non la facciamo perché fa troppo fumo all'interno del circo. Scusami, la Brambilla dice che quando la tigre poggia le due zampe è una specie di... di tortura o comunque una specie di umiliazione, una cosa innaturale. La Brambilla. Che ne pensi della signora Brambilla? Che ne pensi della signora Brambilla? Ha bisogno di un bravo psicologo, anche di un bravo esorcista. Esorcista questo, noi siamo specializzati negli esorcismi, per carità. Però perché dice esorcista? Perché sta dicendo delle cose che non è a conoscenza, cioè lei non se ne rende conto che è stata presentata, che sono stati presentati dei documenti falsi. Vabbè, adesso non entriamo nel merito di queste cose, non me ne frega nulla. Ciao tesoro, vabbè. Ciao Matteo da Roma, vai. Vive circo, vai. Sì, salve entrambi, salve Parenzo. Vorrei rendere dotta la collettività e soprattutto al signor Parenzo dell'ennesima stronzata perpetuata dalla presidentessa della Camera Boldrini, adesso presente nella cittadina di Latina, ex Littoria. Ma che stai facendo? Stai leggendo un comunicato? No, dove il parco Mussolini è stato cambiato. Lo sappiamo da giorni di questa cosa. Okay, lo sappiamo da giorni. Per me è una puttanata, però chi se ne frega? Un parco che era intitolato ad Arnaldo Mussolini è stato trasformato non nel parco Bubù, in Falcone e Borsellino. Ed è giustissimo, ma va bene. Sta lì a cantare Bella Ciao con altre 50. Ognuno canta quello che vuole. È una buffonata politica. Perché il presidente della Camera non è vero che non fa politica, fa politica ogni giorno. Fa politica per una parte politica ogni giorno. Esatto. E fa l'ennesima buffonata a Latina con il cambio di nome di questo parco, di cui francamente la gente non sentiva l'esigenza. Cazzo, per carità, campiamo bene uguale. Però se sei la presidentessa della la presidente anzi della Camera, noi come collettività, aspettando di andare alle come collettività urne, tu rappresenti almeno, solo te stesso, non è che rappresenti la collettività. Esatto, è vero. Io spero che si vada al votare il più presto possibile, così almeno presidente della Camera non è più presidente della Camera, si candidi, cerchi di pigliare i voti, così almeno tutto è più normale. Mauro da Mantova, il grande ritorno di Maurone. Fermo Parenzo. È tornato Mauro. Torna al nulla. Vai Mauro, dimmi. Allora, ciao Cruciani, punto. Mauro, si sente bene. È uno di quelli nuovi. Ma quanti telefoni hai, Maurone? Scusa. Meglio Donato da Varese. Ne ho appena venduto uno stamattina per prendermi lo scooter. E adesso purtroppo non ho più otto. Hai sette cellulari. Il telefono poi si lamenta che non arriva a fine mese. Ma cos'è? Gli immigrati hanno sette cellulari, non lui. Ma cosa fa? Puoi prendere la paletta e schiacciare quella mosca fastidiosa. Però scusami, ma che ti dia fastidio, a me non me ne può fregare di meno. Però scusa una cosa, Mauro. Hai detto sei sempre a piangere miseria. Sempre miseria, e poi hai sette cellulari. Hai sette cellulari con sette abbonamenti diversi. Ascolta, siccome che sono un professionista, quando vado a lavorare una settimana, prendo quello che prenderebbe se andassi a fare l'operaio, quel fannullone che hai lì vicino. Ma quello non è fannullone, quello lavora dalla mattina alla sera. Ascolta, io piglio 1000 euro a settimana. Ma dove 1000 euro a settimana? Quando vai a lavorare? Piangi sempre miseria, te la prendi con Monti, con Napolitano. Hai visto a proposito? Io lavoravo 4 settimane al mese. Ma non sarà mica colpa di Napolitano? Che è colpa di Napolitano che va in vacanza con l'aereo di Stato? Ascolta, ma chi è che l'ha fatta la recessione? Io o Monti? Adesso è un discorso molto ampio. Perché hai chiamato? Spiegami perché hai chiamato. Dico solo una cosa, poi ti dico il perché. Allora, intanto quel Facebook farlocco, perché io non ho Facebook, che usa la mia fotografia e il mio nome, domani mattina lo vado a denunciare. Ma chi se ne frega? Non me ne frega niente a me di questa cosa qua. Ma chi vai a querelare? Chi vai a querelare? Quello che usa la mia identità. Ma non me ne frega niente, parlami di qualche argomento, di cosa vuoi parlare? Quel coglione di Parenzo. Ma comunque, Parenzo? Volevo dire, Parenzo? Identità? Ma chi ti pare che qualcuno ruba l'identità a sto demente? Ma che stiamo scherzando? Stai zitto, c'è la merda. Allora, ma ti pare? Dopo un anno, hanno festeggiato chi? La prima casetta. Ma dove? Ma chi? Le quattro casette a settimana che gli forniva quell'azienda di Bolzano non andava bene. Di cosa sta parlando? Del terremoto. Ad Amatrice, dopo un anno che c'è il terremoto, hanno consegnato la prima casetta. L'abbiamo detto qualche giorno fa. Allora? Cos'hai da dire? Oggi l'hanno detto, oggi. Non andavano bene le quattro casette a settimana che gli forniva l'azienda di Bolzano. Perché non ci rimaneva la cresta, non c'era la cresta da fare. Non lo so, la cresta, amico mio, bisogna avere le prove. Un'altra cosa, Cosa hai visto su internet? È il nostro napalm, lui, è il nostro napalm. Cosa hai visto? Ah, Bossetti, attenzione, Bossetti è portato. Oh, questo è importante, sentiamo. Chi è stata a uccidere Yara? Sentiamo. Allora, inizia la ricerca della Yara. Sì, è stato Soros. Soros è stato. Se non mi interrompete, dico la mia. Sì, però riassumi, amico mio, riassumi. Ma chi è... Allora, stanno cercando la Yara. Quel ragazzo di 22-23 anni che l'ha vista, che l'ha vista parlare con quei tre extracomunitari con una Citroen Picasso appoggiati ferme. Ma che ne l'hanno sa? Impaurito, sa? L'hanno impaurito perché gli hanno fatto ritrattare. Ma chi prima, cosa dice sta demente? Prima incongruenza. Seconda. Ma non sei l'ispettor Clouseau, ma che cosa dici? Derrick dei poveri. L'intercettazione del tenente Colombo di Mantova. L'intercettazione del marocchino di Ticri che dice con la sua ragazza, ma io non pensavo che la uccidessero. Ma che ne sai? Hanno, l'intercettazione. Si sono inventati, ma... hanno sbagliato la traduzione. Poi l'ultimo ciliegina sulla torta. Che cosa? La polizia svizzera diede due cani molecolari alla polizia italiana per cercare la Yara. Questi due cani molecolari dopo aver annusato ma non ho capito la tua conclusione qual è? Annusato le tue stupidaggini. Te la dico. Allora, la maglietta che gli è stata data della Yara ai due cani molecolari puntavano al cantiere del Mapello, che è ma di perché? Proprietà dei signori Locatelli, che sono dei grossi. Ma di che stai parlando? Allora, se tu non lo sai, il cantiere... Ma non me ne frega niente! Il cantiere? Sono degli trafficanti di droga! Dei trafficanti di droga? Ma di che parli? Oh, mancavano i trafficanti di droga! Basta, basta, non se ne può più! Ma di nuovo quello! Ma chi è la teoria di chi? Ma chi è stato? Chi ha ammazzato? Ma qual è la teoria? Allora, se me la fai finire... Allora... I cani molecolari, dopo aver molecolari. Una strano che non li invitino nelle trasmissioni a sostenere queste tesi. Ma chi è stato? De Benedetti? Chi è stato? De Benedetti, quel coglione lì. Allora, ma quando gli hanno fatto annusare la maglietta ai due cani molecolari, ma hanno fatto annusare quale maglietta ai cani molecolari? Ma lei è un malato! Ma è stata fatta annusare degli documenti appartenuti a Yara. Questi cani qua puntavano al cantiere del Mappello. Andò dalla parte opposta. Ma chi sono stati? Chi è stato alla fine, secondo te? Chi è stato? Non c'è Bossetti. Non c'è Bossetti. Ecco, siamo arrivati a Panzo, dai. Ma non c'è Bossetti. Intervieni, ti prego, intervieni, dai. Stanno coprendo il mandante e l'esecutore. Lo stanno coprendo. Punto. Lo stanno coprendo. Punto del Mappello e il commissario va dalla parte opposta. Ma che te ne frega a te? Ma che te ne frega a te? Opposta. Ma che ne sa lei? Di dove è andato il commissario? Stupido! Ma stupido che intervieni su tutto! Stupido! Una merda! Sei una merda! Ma che te ne frega? Che te ne frega a te di Yara e di Bossetti? Che te ne frega? Ma se fosse mia figlia! Ma sarà impazzito se fosse mia figlia! Ma che te ne frega a te? Che te ne frega a te? A proposito, ma siamo in una dittatura, ma porca puttana! Ma che dittatura di ma che c'entra la dittatura? Ha ma fatto che c'entra? Cani, cani molecolari, tutto non va bene. Cani molecolari, sei impazzito con i cani molecolari adesso. I cani molecolari. Scusa, ma infatti, scusa. Ti ricordi? Sì, va bene, non me ne frega niente ormai. Ti ricordi? La polizia svizzera, sai che fece? Ora cosa? Ridateci i nostri cani, perché voi non avete. Tu vedi troppa cani molecolari. Ma tu vedi troppa televisione. Vedi troppa televisione, amico mio. Vedi troppa televisione. Questa è la realtà che tu non sai. Sì, che io non so. Vabbè, ciao. Allora, lei ha troppo tempo libero. Ciao, vai su internet. Sì, vado su internet. Vai su internet. Sì, vai su internet. Basta, basta, non ne posso più. Io l'ho seguita giorno per giorno la faccenda della Yara. E De Benedetti. Ascolta, ma perché non ti strangoli? Che tanto non sei, non servi. Tu nella società non servi. Ma vai a fare in culo, va. Ma sei inutile come la scorreggia. Ma sei un deficiente, sei basta, no, dai. No, sei... se tu sei un testo di cazzo. Sei un poveraccio, dai. Tu stare con uno idiota così diventi deficiente come lui. Ma sei un poveraccio, dai. No, sei... non sono un poveraccio, siete voi che siete due leccaderettani. Ma siete due leccaderettani. Tenente Colombo di Mantova. Vai a lasciare il culo a Cairo, tenente Colombo di Mantova. Scusi. Tenente Colombo di Mantova. Sei un povero demente, dai. Sei un demente e basta, dai. Sei da internare. Sei da internare. Sei da internare in clinica, adesso prendo io il posto di Parenzo. Sei da internare in clinica. Sei da internare, basta. Sei da internare. Vedete quello che vi fa comodo. E te benedetti. E quel bastardo di Napolitano. E spero che cante la svelta. No, questo è grave, questo è grave. E te benedetti. Che scratti quel bastardo. L'ho scaldato. Però, scusi, signor Mauro. Ma no, però scusi. Si blacchi un attimo, non ho capito una cosa, sinceramente. Lei ma ha detto, non capisci un cazzo, aspetta. Ma potrei mai capire, non hai il cervello per capire, coglione. Lei ha sostenuto, aspetta. All'inizio di questa trasmissione, del suo intervento radiofonico, lei ha sostenuto di aver venduto un telefonino e aver comprato un motorino. Esatto. Che cazzo di motorino ha comprato? Con i soldi delle MPS? Ti ha comprato il caviale? Coglione bastardo! Ed è benedetti! Ed è benedetti! Ma trafa la merda! Devi strangolarti! No, ma scusi, ma non ho capito. Vai, fa il culo. Ciao. A proposito, io avevo fatto quella discussione con Paco. Paco, che fine ha fatto? Ha detto che andava via dall'Italia. Io spero che sia già preparate le valigie. Eh già. Sembrava la fine del mondo. Sono ancora qua. Ok? Ma sono ancora qua. E io sono ancora qua. Ella, io sono ancora qua. Ella, bastardo che siete. La maggioranza silenziosa è compatta con Paco da Belluno. Vai, spada di fuoco. Sei comunista, sei ebreo e sei pure musulmano. Io sono nazista e basta. Fai, certo che fai cagà proprio, fai dei latte alla ginocchia, quanto cazzo sei brutto all'aria che tiri. Un abbraccio, caro Parenzo, la minoranza silenziosa. Anzi no, la maggioranza silenziosa dei miei coglioni. Un abbraccio di nuovo. Io questo un abbraccio di nuovo lo trovo una delle cose più geniali che ho mai sentito. Amico mio. Allora, vorrei chiamare Cicciolina per questo attacco a Luigi Di Maio. Io trovo lo scontro tra Ilona Staller e Luigi Di Maio spettacolare. Spettacolare. Sentiamo Ilona, va. Magari è ancora incazzata. Dov'è? Il Cicciolino Cruciani. Pronto? Ilona, amica mia, sono Cruciani. Onorevole. Come stai? Buonasera Parenzo. Buonasera. Ciao tesoro, ciao Cruciani, tesoro. Cruciani, guarda, ti vuole salutare Ludwig, mio figlio. Dopo me lo passi, Cruciani. Dopo me lo passi. Senti, come sta onorevole? Sì. Buonasera, sono Parenzo. Ilona? Tesoro? Ilona? Ilona, Ilona. Richiamate. Jacopo Varese, intanto Jacopo. Ciao Giuseppe, ho sentito prima la battuta di Parenzo che ti piacerebbe entrare dentro nel circo a cavallo di un elefante. Ecco, un somaro su un elefante sarebbe un bello spettacolo per il circo. Questo è divertente. Questa è una bella battuta, perché? Divertente. Anche divertente. Perché, guarda, l'altra settimana scorsa quando ha telefonato, vi siete messi in contatto con il direttore Feltri, si è capita la differenza su chi scrive sui giornali è un giornalista direttore di giornale. Ma che vuol dire Jacopo? Somaro, non ho capito bene, non ho capito bene questa sarebbe cosa. Sarebbe bene testa di Lenin o testa di Stalin per Parenzo, grandi statisti assassini. Questo ride da solo, ma questo è rincoglionito completamente. Vero. Fa le battute e ride da solo. Da solo, è imbarazzante. Allora, Ilona, fuori dai coglioni, dai Jacopo. Ilona. Ciao. Oh, tesoro, amica mia. Allora, come sta, onorevole? Mi saluti Ludwig intanto, l'abbracci Ludwig. Ti salutano Cruciani a Ludwig Kunz, anche a Ludwig Kunz vi saluta. Ludwig Kunz, lo trovo stupendo, che nome meraviglioso, Ludwig Kunz. Ludwig. Allora, Ilona, ma io penso che tu hai ricevuto una grandissima offesa da parte del signor Di Maio. Cioè, lui ti ha messo in questa sorta, com'è che è, di blacklist, no? Di blacklist. Ma è veramente offensiva e non solo offensiva. Sì. Purtroppo lui, secondo me, vuole farsi pubblicità per la sua campagna elettorale. Ah, con te, dice, con te direttamente. No, ma non è giusto utilizzarmi come capro espiatorio, perché non è giusto. Vabbè, dai, amica mia, tanto ormai lo sai come funziona, no? Praticamente io prendo i vaffanculi dalla gente, mentre invece ci sono quelli che prendono $1,000,000 all'anno, ma per favore. Vabbè, ma prendi 2,000 euro, l'hai spiegato più volte, no? A volte anche 1,700, perché dipende a mesi e mesi, però no, non è che prendo chissà che. Io voglio dire questo, onorevole Staller, che se c'è una persona che merita questo vitalizio è proprio lei, perché lo sai lei che molta gente mi ha scritto da quando è iniziata questa polemica con Di Maio, dice: beh, è stata ragazzi, una deputata bravissima, ha fatto godere un sacco di italiani. Hai visto te? Ha fatto godere un sacco di italiani. Chi meglio, chi più della signora Staller merita il vitalizio, giusto? Sono Ilona, soldi ben investiti. Ilona, dico male o no? Senti, ma io nella pornografia ho dato il massimo. Penso che sono stata una brava pornodiva. Hai fatto godere un sacco di italiani. Ho fatto godere tanta gente. Sono nati tanti bambini. Beh, sono nati tanti bambini, adesso non lo so. Cioè, sicuramente si sono consumate anche molte mani. Probabilmente sì, ma molti vedevano anche a casa. Ah, tu dici molti vedevano i film all'epoca, forse sì, per eccitarsi. Che quel periodo c'erano i VHS. E era divertente perché la gente andava alle edicole e prendeva, che ne so, Panorama o qualche Espresso e lo mettevano in mezzo VHS con Cicciolina, capisci? Era una cosa era straordinaria. Tu devi sapere, Parenzo, che ultimamente mi sto appassionando alla radio degli anni 80, eccetera. Bene, certo. Prendendo alcune cose. La signora Staller faceva uno straordinario programma su Radio Luna. Radio Luna, uno dei primi programmi rivoluzionari della radio italiana. Fu Cicciolina che parlava di sesso su Radio Luna a Roma. Ah, però. Ma una cosa, dimmi un po' com'era la sigla di quel programma. Tu, voi non lo sapete, ma sono nati con me i Radi Liberi, la prima radio libero. Assolutamente, questo è vero. Questo. La sigla cos'era? Muscolo Rosso? La sigla del programma? Non c'era ancora Muscolo Rosso. Come faceva la sigla di quel programma? Fammi un po' com'era quel programma. Parlavo ai cicciolini, alle ciccioline, come ero fatta, che culettino ero all'insù, e le tettine, la coppa di champagne, insomma, mi descrivevo. Quindi la gente non mi conosceva ancora, tranne che attraverso il vietere, pensa che roba. Capito, prima del porno praticamente. Beh, molto prima, Radio Luna era nel 75, vedi. Ecco, io però sarei porno, per fare questa proposta, cioè sarebbe interessante pubblicare in DVD tutti i suoi discorsi parlamentari intermezzati da alcune ma scene. Ma non ci sono stati molti discorsi parlamentari, diciamo. Pieno dei suoi discorsi parlamentari. Ma al Cicciolino Di Maio, cosa vogliamo dire al Cicciolino Di Maio? Dice, dai, fai un bel discorso. Non Cicciolino, che voglio dire. No, dimmi. Che lo tengo. No, dimmi. Cicciolino Di Maio, dillo. Cicciolino Di Maio. No, non dico perché non è un cicciolino. Prima di tutto. Non è un cicciolino. No, non è un cicciolino. No. Ah, beh, questa Pannella, è grave. Sì, è stato tolto, cioè non è stato mai messo veramente. Ma non lo vedresti bene in un film porno? Prima pure di tutto, Di Maio. Non ripeto, il blacklist lo può dire a qualcun'altra persona che non su di me, perché io non ho fatto nessun tipo di cattiveria, non ho fatto niente di male per essere. Poi tu hai preso i voti, lui no. Lui uno che si chiama Di Maio, scusami se te lo dico. Poi Di Maio, io non so se è stato messa nella mischia, quindi visto che hanno preso tanti voti, quindi no, non ha preso voti, non ha preso del partito. No, ma non ha preso voti, è stato eletto con le liste bloccate mentre tu hai preso le preferenze, mentre invece ho preso proprio sul mio nome. Questa è un po' una bella grande differenza tra me e Di Maio. Assolutamente, assolutamente. Certo. Senti, ma tu alla fine con sto vitalizio l'abbiamo detto mille volte, una volta per tutte, vogliamo chiarire questa cosa qua, una volta per tutte definitivamente, ti arriva questo vitalizio, 1.700, 2.000 a seconda dei mesi, poi perché cambia a seconda dei mesi, scusa, che cambia la storia? Comunque vabbè. Arriva se quando arriva. E non l'ho capito perché è sempre uguale il vitalizio, no? Ti tolgono un po' di soldi ogni tanto? Tolgono 1.000 passa euro. Perché? Ah, pignoramento. Ogni mese. È pignorato, perché pignorato. Tasse, quello, quell'altro. Equitalia, roba di Equitalia. Roba di Equitalia. No, non l'ho capito che tasse amica che mia. Tolgono. Vabbè, comunque, ti arriva questo... A cosa ti serve esattamente questo vitalizio? Se non ci fosse ma questo... Ma guarda, io non vorrei parlare a cosa mi serve. No, ma per capire, cosa ti serve? Cioè, alla fine, chiariamo definitivamente questa cosa. Chiariamola una volta per... Comunque, come dice mio figlio, è carino come l'ha detto. Che ha detto? Per campare, perché è un momento brutto in Italia. Oh, bravo, e noi bravo. Facciamo parte, come dici, della fascia di popolo. Vieni qua un attimo. Della fascia? Che noi non siamo ricchi, ecco, noi non adesso, prendiamo... Non prendo 15.000 euro al mese, oh? Ho capito, oppure, però la casa di chi è? Dove vivi? Come certi delle cooperative. Come certi che hanno le cooperative, insomma. Vabbè, Ludwig ha risposto giusto, vedi Ludwig è andate d'amore e d'accordo. Senti, ma a proposito di una cosa, sono sempre stato curioso. Ecco, noi non siamo miliardari, ecco, volevo dire. Ma in banca tu quanti milionari. Soldi hai in banca? Nel tuo conto in banca, quanti soldi hai tu, Ilona? No, non parlare con Ludwig, lascia perdere. No, beh, come non parlo con mio vabbè, figlio, ma adesso, mio figlio. Ma sì, d'accordo, certo, adesso siamo qui dire... Sì, ma certo, non c'è dubbio, io lo adoro Ludwig, però dico Ilona, tu scusa. Adorano Ludwig adesso. Io adoro Ludwig, guarda, per me io posso dire io e Parenzo adoriamo Ludwig, vero? Pure te adori Ludwig, vero? Ma adesso David? Non me ne frega niente. No, adesso no, perché sei uno stronzo. Ma sei uno stronzo, scusa, Ludwig Feltri, francamente di Ludwig, francamente. Però scusami Ilona, io dico una cosa, tu sul conto corrente tuo, quanti soldi hai? Non te lo posso dire. Ma anche 2.000, 3.000, 10.000? Top secret. Ma sei in rosso? Sei in rosso o no? Ludwig, mi domandano quanti soldi ho sul conto corrente. Fallo dire a Ludwig. Quanti soldi ha sul conto corrente la mamma? Beh, non ti posso dire la cifra, ma pochissimo. Tipo 2.000, 5.000, 10.000? No, quanto pochissimo. Non, cioè sei in rosso? Non sei in rosso spesso? Sei in rosso? Vedi, io non ho i chalet di qua, o soldi di qua, o milioni di là. Non... Senti, ma io ho una curiosità che ti voglio chiedere definitivamente. Tu hai mai squirtato quando eri sul set? Ecco. Che cosa vuol dire squirtato? Non sai che cos'è lo squirting? No. Non sai che cos'è lo squirting? No. Mica mia, ma è veramente, ragazzi, questa è la fine di tutto. Possiamo chiudere la zanzara. Anch'io non lo so. Vedi, voglio chiudere uguali, la zanzara. Non lo sapevo. Con questa io. Notizia che Ilona Staller detta mangia, in si beve, che cos'è? Amica mia, lo squirt. Sai che cos'è lo squirt? No, non ho idea, ti giuro. Nel sesso, lo squirt, quando la donna eiacula. Non sai e cos'è. Si chiama squirt? Squirt. Lo squirting. Si gode, non squirt. No, ma quando tu fai una eiaculazione molto una potente, tipo squirt, mi ha detto Ludwig che è in americano squirt. Squirt, ok, ma quello è conosciuto come tu non sai cos'è lo squirting. No. Io ragazzi, Parenzo, possiamo chiudere la zanzara. Lei sa che cos'è il sistema proporzionale, ad esempio. Ciao Ilona, ciao tesoro. Ho fatto qualcosa di male. No, ma non sai cos'è lo squirting eccezionale. Aspetta, guarda. Allora, se tu me lo spieghi. Aspetta, vengo dopo. Fammi fare la borsa. Aspetta. Vengo dopo, detto alla vengo sera. Dopo, vengo dopo, non è proprio. No, vengo non dopo. È proprio il massimo. Tu spiegamelo così tu. Ti rispondo. Ok, aspetta. La mia specialità è lo squirting. Amore. Beh, amica mia, Parenzo. Spruzza via acqua. Ed io mi preoccupai. Bruciare, cos'è lo squirt? Mi visita un dottore, mi disse non è niente, è nettare d'amore. No, io faccio altre cose. Io cago addosso ai clienti. Ah raga, parliamoci chiaro. Cioè, con tutte le seghe che ha fatto fare il Ilona Staller in Italia, altro che 3.000. Gli diamo 10.000! Crociati! Che cosa vuol dire squirtato? Ma anche che cos'è? Si mangia, si beve, che cos'è? No, non ho idea, ti giuro. Cara Ilona, qui dobbiamo chiudere baracca e burattini dopo quello che hai detto, eh. Cioè, sai che cos'è? Che se tu me lo spieghi ben bene, così io lo capisco e allora è lo spruzzo, la donna che spruzza, capito? La donna che spruzza si chiama squirting. Non l'hai mai... Ma che fa la pipì? No, ecco appunto, poi c'è un'altra cosa, Parenzo, bisogna spiegare. No, non fa la pipì è, diciamo, è la cosa regolare, è sì, quella che fanno tutti. Durante il sesso capita che la donna venga, ma viene oppure, diciamo, cioè spruzza qualcosa, non so come dirti, si chiama squirting, non c'è un... è lo spruzzo. Scusa, non l'hai mai visto fare una pornostar, te per esempio? Beh, sono passati degli anni da quando ho finito Lo so, quello è vero, ma è quello. Dunque, dunque tu non hai mai squirtato in vita tua e non sai cos'è lo squirting. Beh, allora non si utilizzava. Non si utilizzava. Non si utilizzava. Cosa? Lo sa più tuo figlio. Lo sa più tuo figlio di te. Cioè, mio figlio è moderno. Scusami, Ilona, ma tu lo faresti un film porno con Di Maio? Ti sembra adatto, signor Di Maio? Non è un brutto ragazzetto? Ascolta, non, Peppe, prima di tutto non, adesso non lo farei, in questo momento non lo farei, non lo mai proprio. Farei regia di un film molto bello, regia. Dove magari farei un Lady Butter lei, dai. Che sarebbe molto bello come film. Ma che vorresti fare veramente la regista di film? Tu? Perché mai no, un regista del film porno erotico? Perché non mi trovi capace? Sì, assolutamente. Beh, lei ha il know-how necessario. Io sarei molto brava. Tra l'altro sono anche fotografa, dipingo dei quadri. Non parliamo potresti, mai di potresti fare la regista, sì. Scrittiamo, ma non parliamo delle cose essenziali che i miei quadri, beh, che sono molto belli. Quadri, sì, però, no, ma so che sono molto belli. Sì, sono molto belli, però. Però tu sei conosciuta per altre cose, so, cari loro. Sì. Però esatto. Io voglio dirti una cosa definitiva. Anche Ludwig dipinge, lo sai? Ludwig? Pure, sì, non è da lì, però. Adesso diciamocela tutta. Ma che c'entra da lì, Ludwig? Scusa, che c'entra da lì? Ho detto non è da lì, non però, è però, scusami, lo Ludwig, sai che cosa ha detto? Conosci la signora Efe Ball, tu? Chi? Efe Ball, conosci? Una Efe Ball, sì. È una transessuale. Ha detto che Rocco Siffredi dovrebbe ritirarsi dal porno perché ormai è vecchio, ormai non uno dovrebbe ritirarsi, eccetera, eccetera. Tu da che parte stai, diciamo? Con la signora Efe o col signor Rocco? Ma io dico una cosa, che se finché una persona ha voglia e gli piace, il sesso non c'è l'età, secondo me. E quindi se chiunque voglia fare anche a 90 anni, ben venga, faccia. Dunque Rocco fa bene a continuare, diciamo. Beh, a me non, sinceramente a me di lui non è che me frega niente. Non te ne frega nulla. Faccia non faccia o si ritira non si ritira, sono fatti suoi. Però secondo me non è un fatto di età. Ma perché ti sta così sui coglioni, signor Siffredi? Quando è fatto di età, quando non si drizza. E purtroppo a alcuni porno attori che può succedere questo fatto un po' imbarazzante. Molto imbarazzante. Che non li si tira più. Anche a signor Parenzo succede, per esempio. Signor no, Parenzo, ma cosa dici? Metti di fondo i voci totalmente. Secondo me, ma perché secondo me, ma Rocco prende il Viagra, secondo te, utilizza? Ma voi lo sapete che per esempio nella pornografia le donne hanno più facilità in tutto. Sì. Perché la donna può anche fingere di godere. Ma quello sempre anche nella vita normale. L'uomo, io mi ricordo che sul set sono stati mandati via dei ragazzi, un ragazzo per esempio al momento che mi toccava la pelle già veniva. Quella è grave. Però dice, questi dettagli, ma scusa, sei venuto a fare cosa? La giostra? I ricordi della signora Staller. Sì, questa aneddotica possiamo anche fare. Scusa, ma secondo te Rocco prende il Viagra? Comunque non vi preoccupate che tra poco ci sarà dal mio libro autobiografico, film mondiale bellissimo in tutto il mondo. Molto che bene, è... secondo te Rocco prende Viagra? Che ne so. No, così ho intuito. Non lo so. No, ciao, no. Ciao tesoro, ciao. Arrivederci, signore. Vi mando un bacione e non scrittateli in studio, eh? No, noi non possiamo scrittare in studio, è impossibile. Ciao, attento ciao. Non scrittare. Ciao, ciao. Baci, ciao. Arrivederci, signore. Allora, Darek da Milano, signor Darek. Sì, ciao, okay, Giuseppe, incredibile, ciao. Come non sappia cos'è lo squirting, ma ti rendi conto? Infatti, è un'altra mi epoca. Mi hai accusato a me di essere... No, no, hai ragione, su questo hai ragione, perfino la signora Staller. Intanto leggo, ragazzi, che un assessore in un comune che si chiama Rozzano ha postato su Facebook, in una chat del PD, non so, forse non del PD, questo è incerto, questa roba qua, Parenzo, calendario venatorio 2016-2017, è una specie di volantino. Dunque ha preso questo volantino da qualche parte e lo ha postato. Le regioni italiane comunicano l'apertura della caccia tutto l'anno per la seguente selvaggina migratoria: marocchini, romeni, bulgari, albanesi, kosovari, talebani, afghani, zingari, extracomunitari in genere. Cosa vuol dire? Le regioni italiane comunicano l'apertura della caccia tutto l'anno per la seguente selvaggina migratoria: marocchini, romeni, bulgari, albanesi, kosovari, talebani, afghani, zingari. Calendario venatorio. Sospesa da questo momento la caccia ai comunisti, in quanto entrati a far parte della specie in via di estinzione, restando salva la possibilità di cacciarli in zone di ripopolamento quali case del popolo, coop, centri sociali, eccetera. E che cos'è? Cioè, questo signore che fa parte di una giunta del Partito Democratico a Rozzano, qua vicino a Milano, ha postato sui siti, su alcuni siti, questa roba qui. Ovviamente la sinistra del posto, e non solo la sinistra, è incazzata. Il PD nazionale fa una legge contro il fascismo e il PD di Rozzano ha in giunta comunale il fascismo. Questo scrivono alcuni militanti di sinistra a Rozzano. Sì. Darek, vai! Sì, ciao Giuseppe, ciao. Ascolta, dimmi. Ma mi ricordo bene qualche anno fa quando Napolitano faceva il europarlamentare, è stato pizzicato a prendere un low cost e si faceva rimborsare il guarda, è una vecchia storia che riguarda i rimborsi del quando era parlamentare europeo. Cosa vuol dire? Quando era parlamentare europeo c'era la storia dei rimborsi che riguardava tutti i parlamentari, non so come sia finita la storia, Darek. Allora? Ah, non si sa. No. Diciamo che Parenzo è sempre contrario, ma purtroppo con i comunisti questo paese non ha chance. Ma che c'entra i comunisti? Senta, Napolitano ha contribuito a scrivere la migliore storia di questo paese, quindi che lei ne dica Parenzo, o meno, lo riconoscono anche i suoi avversari, avversari politici storicamente, riconoscono in Napolitano una persona retta e per bene. Avrà fatto qualcosa di buono, ma mi pare anche che negli anni 60, quando lui faceva bel politico attivo nel Vabbè, ma chi se ne frega però gli anni 60, ragazzi, 60, Simone da Pavia, Darek, me rotti i coglioni, Simone da Pavia, dai. Ragazzi, non voglio parlare di storia, non frega un cazzo a nessuno. Se volete parlare di Napolitano negli ultimi anni, parlate, Simone da Pavia. Vai. Ciao Beppe. Ma no, si parla di Napolitano per questa cosa qua del volo, no? Simone, vai. Ma quale volo? Ha preso un aereo, ma dov'è? Non prendi mai l'aereo tu? Di Stato. Ricorda, cos'è? Un Falcon 3 motori. No, ma ragazzi, si può fare a meno di prendere questo aereo di Stato o no? Dobbiamo limitare i voli di Stato o no? Punto, Simone da Pavia. Ma ci saranno ragioni di sicurezza, non lo so, può darsi, ma io sto dicendo. Prefetto Morcone, ma... Simone da Pavia, dai. Simone da Pavia. Ciao Beppe. Dimmi. Se sei il numero uno incontrastato nonché incontrastabile. Vai Simone, non me ne frega un cazzo, vai, dimmi. A proposito di Squirt, ti volevo dire che adesso siamo qua a Milano Sud e c'è qua una troia live. No, fermo. Simone, guarda, io decido quando parlare di sesso, in che modo parlare di sesso, ok? Cioè, per cui non fare il gradasso con me, c'è una troia qui accanto. Di cosa mi vuoi parlare, dimmi. Qual è l'argomento per cui hai chiamato? Dimmi. L'argomento è praticamente... non c'è un argomento. No, allora vai a fare in culo. Franco da Napoli, ciao. Franco. Buonasera, Don Peppino. Dimmi, Franco. Come va? Io chiamo sempre a difesa della razza napoletana e partenopea, cosa che tu vuoi sempre imbancare inevitabilmente tutte le sere. Ecco, è arrivato il napoletano. Non hai argomenti, capisci? Non hai nulla. L'Italia è in rovina, capisci? L'Italia è in rovina, non è solo Napoli che porta la rovina, è tutta l'Italia che è ormai distrutta. È inutile che argomenti sempre contro Napoli, napoletano. Hai veramente scocciato. Sì. Non hai argomenti, sì. Sei proprio inutile. Sì. Ma io ti voglio fare una domanda. Sì. Che mestiere fai tu? Io sono un ex appartenente alle forze di polizia. Sì. Quindi ti voglio fare una domanda. Sì, sei anche neo borbonico. Tante belle cose ci hanno rubato qui. Sì, chi hanno rubato? Chi? Il nord, i predoni del nord. Dov'è il complotto? Ma tu com'è? Cos'è questa? Cioè, non ti capisco. No, a me mi sta sui coglioni il vittimismo. Mi sta sui coglioni. Ma quale vittimismo? Lo mi sta stato sui coglioni. Ma basta con questo vittimismo. Lo è colpa stato, dello Stato. Avete rotto presente, i coglioni. Coglione. Avete preso non un sacco di soldi e li avete buttati nel cesso. Capisci? Anche con l'ausilio dello avete Stato avete buttato nel cesso un sacco capisci, di soldi in quei 50 anni. Perché basta con questa parlare, storia. Perché non fai parlare? Ma che stai parlando, figura, facciamo parlare tutti, ma persino te. Ti alteri sempre. Ma l'argomento Napoli per te è fondamentale, non capisco, ma è proprio fondamentale. Perché non intervengono quei roghi qua a Napoli? Perché non lo ma non Stato so di cosa sta parlando. Ci vuole dire di cosa dobbiamo parlare e di cosa non dobbiamo perché parlare? Perché non è presente? Perché non è presente lo Stato? Questo se lo sei mai posto. Lo Stato qui a Napoli non è presente. Non è presente lo Stato. Non è presente, dello Stato. È inutile. Ma se i vigili urbani ogni volta presente. Che provano a mettere una multa a quelli senza casco vengono sbeffeggiati. Fermo. Allora Franco, che vuoi? Non ho capito. Ma ti ho detto, potresti anche portare una soluzione, visto che c'è un programma fondamentale, no, per l'Italia, forse. Io non devo dare nessun contributo, non devo portare anche nessuna soluzione. Porti anche tu, vieni qua. Porta la tua soluzione, abiti lì a Napoli, fai il tuo. Sì, noi ho cercato. Nicola da Bologna, ciao Franco, Nicola da Bologna. E chi ha detto il contrario? Nicola da Bologna. Ciao, buonasera. Dimmi, Nicola. Allora, io vorrei dire una cosa a Cruciani. Sì, dimmi, cara. Cioè, Cruciani è un grandissimo testa di cazzo. Sì, e perché? Alle 18:45 in macchina con mia figlia sentivo la zanzara e parlavano di bocca figa, una toccola, uno che aveva preso la multa da 500 esatto, euro. Esatto, problema della prostituzione delle multe. Hai chiamato per protestare? Che è un testa di cazzo. Ah, appunto. Poi lui chiama per dire una testa di cazzo. Pensa se tuo figlio fosse in ascolto adesso. Adesso sta mangiando. Senti, se ti faceva schifo, spegnevi la radio e non ci rompevi i coglioni, chiaro? Cruciano, sei una testina di cazzo. Sei una testina di cazzo. E si è spaventato al discorso della mattina alla sera. Com'è? Sei un pezzo di merda. Che hai detto? Ecco, che hai detto? Scusa? Andresti bastonato dalla mattina alla sera. Benissimo, Nicola da Bologna. Molto bene. Nicola da Bologna. Chi mi dovrebbe bastonare, Nicola? Che sei alla tortura? Ma non lo so. Alla tortura a palo. Magari ti prendono ammazzato. Senti, io non credo che tu fossi in macchina con tua figlia. Tu non eri in macchina con tua figlia. Stai chiamando per rompere i coglioni. Beh, anche no, te lo giuro, ero in macchina con mia figlia. Ma io accetto la tua rottura di coglioni. Anzi, cioè, io dico, scusa, puoi far ascoltare, 45, puoi far ascoltare tua figlia adesso? Io faccio quello che mi pare, chiaro? Faccio quello che mi pare, non sei tu a dirmelo. Decido io quando parlare. Era una scopa, sì, ma lascia perdere. Mi hanno detto di peggio. Sono mi scivolo addosso quello che mi dici. Me ne fotto totalmente. Chiaro? Sì, mi scivolo addosso. Me ne fotto di quello che dici tu. Me ne fotto, chiaro? Me ne fotto dei tuoi pruriti. Me ne fotto delle tue dei tuoi problemi con tua figlia. Me ne fotto. Io parlo di quello che mi pare ogni ora del giorno, certo, a modo mio. Chiaro? Se non ti va, spegni. Finché non ti chiudono la trasmissione. Sì, e tu non hai più nulla da ascoltare. Per questa qua è un'oasi di libertà grandissima. Dio, se tu sei parte di quest'oasi di libertà, sei parte. Ciao. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, un personaggio che non ti piacerà. Una donna, Daniela, non è il suo vero nome, naturalmente, che tra le altre cose fa dello scambismo, sì. una scambista, ovviamente non è che fa la scambista di professione, pure. Con il marito praticano lo scambismo. Perché te la presento questa signora? Perché nei giorni scorsi in un paese, ricordamelo tu Daniela, che paese è? Maserata del Piave. Ok, Maserata del Piave, Maserata del Piave. In Veneto dovrebbe essere. Provincia di Treviso. Hanno praticamente fatto che cosa? Hanno organizzato una festa in una casa, una festa con diverse coppie. La cosa è andata a finire sui giornali perché pare che ci fosse un pericolo di prostituzione dentro questa festa. Non hanno capito un cazzo. Paga un ingresso, una specie di fee, come si dice in inglese. Si paga una cosa di ingresso. Ma chi si paga? Si paga a chi organizza. Ci sono degli organizzatori di feste private. E arrivano delle coppie sposate per fare delle cose. Anche o sposate o non sposate. Spiegale tu, Daniela, che cosa succede in queste feste. Allora, vengono organizzate queste feste in case private per chi ha piacere di condividere determinati momenti in compagnia. Sì. Cosa? Si mangia, si beve, si guarda, anche, si legge il libro. Anche si mangia, si beve, si fa tutto, si scopa. Poi a un certo punto si scopa. No, o sbaglio, Daniela? Si spera, assolutamente si spera. Cioè tu se ti accoppi anche con più uomini, immagino, no? è capitato sicuramente di giocare con diverse di giocare persone. Si dice il termine tecnico è giocare, il termine tecnico è come giocare, giocare. Scusi, tu devi sì giocare, cioè la signora PlayStation si gioca, no, si gioca a anche al sesso, si gioca, cioè Daniela, no, ma certo che gioca, ma in coppia, ma non ho capito cosa succede, cioè, si gioca in coppia, perché si gioca in coppia, non in coppia, cioè Daniela, si, sono Daniela delle feste, sono delle feste private in case private, sì, dove chi ha piacere di partecipare versa una quota di partecipazione alle spese, sì, perché sì, ovviamente la chiaro di una casa ha un costo, e tutto quello che ci gira attorno, che è appunto il bere, il mangiare. Ecco, ma quante coppie di solito il massimo a cui ma hai partecipato? È sposata, signora? È sposata, col marito partecipa, col compagno, marito? Sì, assolutamente, ma che bella famiglia. Sempre in coppia. Ecco, a tuo marito piace molto vederti accoppiata con più uomini? A mio marito sicuramente piace, è un gioco di coppia tra due persone adulte e consenzienti. Sì, sì, perché ti prego, prova siamo anche qui tu. Siamo qui ma proprio per che tutta questa pubblicità che è stata fatta a questa festa si è perché sabato prossimo sabato prossimo c'è un altro di prostituzione. Sì, sabato prossimo in questo posto che si chiama Maserada, che non è Maserati, ci sarà questa grande festa. E finito sui giornali, festa per scambisti, via i controlli, vertice tra il sindaco e i carabinieri per l'appuntamento Otti in una villa, eccetera, eccetera. Ma la prostituzione non c'entra niente in questi casi. La prostituzione non c'entra niente. Gente che si vuole divertire, sono basta. Sono state fatte delle accuse. Vabbè. Proprio per vabbè, questo abbiamo non capisco una cosa, cioè signora scambista, chiedo scusa, cioè, lei e il marito no, adesso non andiamo al tecnico, abbiamo chiarito andiamo la alla questione tecnica, ho un approccio delicato alla questione perché io voglio non riesco pratica, a comprendere. Parenzo non pratica questa no materia, cioè lei e suo marito, se ho capito bene, sposati da sì quanti anni siete voi? Non siamo sposati, siamo conviventi. Conviventi, benissimo. Suo marito, ma organizzate queste feste in cui altre no coppie di persone sposate o non o fidanzati sì vengono e poi vi accoppiate, vi incrociate a vicenda. Ho capito giusto? Beh, è così, esattamente, certo. Esattamente. Che male c'è, Davide? Non ho capito. È normale, no, è assolutamente normale. Non c'è assolutamente niente. Ma per male carità, il ma gioco è un divertimento, è un modo di vivere la propria sessualità. No, ma non ho dubbi. È assolutamente questo, normale. Ma... Ecco, cosa ti piace beh, di più di questa? Normale, di... Quali sono le situazioni che ti piacciono di più? Quelle con le donne o quelle con gli uomini? Cioè, tu sei anche bisex, come si dice? Sono anche bisex. Anche con... bisex. Che vuoi bene fare? Cioè, la bene signora è bisex, ma con le donne, con gli e uomini. E lei è contenta di vedere che suo marito, nella stessa stanza, mentre lei è indaffarata a fare le sue cose, il marito si diverte con un'altra. Lei piace così, giusto? Sì. Capito bene? Immagino di sì, giusto, Daniela? Sì, sì, sì. Ecco, sì, ma... ed è tutto normale. Va bene, ragazzi miei. Io cosa vi devo dire? Divertitevi. No, ma, no, ma d'accordo. Giocate. Cosa vi devo giocate dire? Giocate, con la parola giusta è giocate. Giocate, giocate. Ecco, tutto qua. Giocate, giocate, giocate. Come dire, resistere, resistere, resistere. Giocate, cosa, giocate, giocate. Vabbè, caro Parenzo, cosa ci trovi di strano in questa cosa? Io la trovo normale. Tu no, come trovo la... incredibile che questa coppia di persone che convive deve ma da quanti anni va ha bisogno avanti di altri soggetti. La vostra ecco attività scambista, da quanti anni va avanti? Non tantissimo, non è tanto ecco tempo. Comunque. Bene, come vi è venuto in mente? Com'è che un giorno? Come vi è venuto in mente? Così, un giorno lui, il marito, un lei. No, abbiamo voluto provare questa nuova esperienza. Erano annoiati. Ecco, come dire, andiamo a fare la spesa? No, andiamo a farci ingroppare da un'altra persona. Ecco, uguale. Vabbè, ho capito, tutto normale. Benissimo. Sì, non dice andiamo al cinema. Ma certo, no, ma come dire, funziona in un contesto cinema, normale. Certo. Uno può dire alla propria fidanzata: tesoro, amore, stasera andiamo al cinema. E dice: no, amore, ma perché questa sera non ti fai prendere da un altro? Dice: guarda, scusa, francamente, no. Se voi dite che tutto questo ognuno è normalità, ognuno va bene. Ha i suoi ognuno ha i suoi ma dove l'ha organizzata questa festa allora alla fine? Scusami, Daniela, nello stesso posto oppure avete scelto un'altra location dopo le polemiche? Beh, le polemiche purtroppo sono state montate un po' d'arte. Vabbè, d'accordo, quello l'abbiamo chiarito, ma dove l'ha organizzata sta roba? Per farsi pubblicità, non da noi. Ma dove l'ha organizzata? Questo è top secret, ovviamente. Ma c'è ancora non posto? C'è ancora posto? Non si può far pubblicità. Ma dove? Ma quanta gente c'è a sta roba? Viaggiano tante persone attorno a questo mondo. No, ecco, ma quante? Questo voglio capire. Quante coppie saranno alla fine? Possono essere tante. Vabbè, d'accordo. Adesso, ma adesso tante non è, quanto? Non è quattro fatti, coppie, ma, tre coppie? No, dieci. 20. No, come 20? No. si parla di, quando si parla di certi eventi si parlano dalle 50 coppie. Beh, amico eventi. Mio, ma le chiama eventi? Ma i concerti sono degli eventi. Ma no, no, no, no, una 50, una mega orgia di 50 coppie, ma è con una porcheria Daniela inaudita. E il marito. Ragazzi, è una porcheria inaudita. Dobbiamo concludere qui. Sì, anche meglio. Questa è l'economia, anche questo è il paese. Ma qual è l'economia? Anche questa è l'Italia, l'Italia che reale, non quella dei salotti di Parenzo. Anche questa è l'Italia reale. Cosa voteranno questi scambisti? Voteranno i 5 Stelle, voteranno il Partito Democratico, voteranno Forza Italia, votano tutto. È l'Italia vera che pulsa, in questo caso ha voglia se pulsa. Pulsa, sicuro che pulsa. Ciao, ciao. Saluti. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Meglio che abbia vinto Macron, meglio che abbia vinto Macron.